sentito Greg, possiamo fare la nostra introduzione separata da quella di Edo. Giusto, è vero, dovrai tagliare un po' questo inizio di Io che mi lamento, ma nel frattempo benvenuti. Benvenuti a chi ci ascolta sul podcast. Altra nuova puntata speciale dal titolo... Non abbiamo pensato un titolo. Legendary. Ci sta, visto Galaxy che... Brain. Perfetto, Legendary, ci può stare. Sempre per continuare la stessa, diciamo, gag, non si può definire gag, però diciamo sullo stesso tono del titolo della puntata precedente, dove abbiamo parlato appunto della difficoltà all'interno di un gameplay, mentre in questa parleremo della difficoltà nello sviluppo di un videogioco, quindi ci sta, difficoltà estrema, se la volta scorsa era eroica, qui in questo caso sarà leggendaria. Ma vi chiediamo di aspettare ancora un secondo, quando la nostra controparte visiva ci darà il via libera, che come un altro paio di puntate, anche questa sarà in con un ospite speciale, ovvero il nostro streamer preferito X Bradipo X. Si sta organizzando per la serata. Edo è ancora mutato per noi, ma lui ha iniziato già a streamare su Twitch. Non so se lo sentono. Quando tutte le telecamere staranno girando, direi che possiamo a quel punto partire. Esatto. Dovrei tagliare un po' in questa puntata. Da Discord? Eccoci qua. Oddio, ci siamo. Buonasera. Ci siamo. Buonasera. Scusate, stavo un po' introducendo... Assolutamente, qualcosa che stavamo facendo anche noi per la nostra controparte solo audio. Esatto. Perfetto. Come al solito perfetto, cioè hai, come si dice, beccato precisamente la fine della nostra introduzione audio e hai iniziato a streamare. Infatti vi guardavo per quello, ho aspettato un pochino. È uno streamer professionista non a caso. Esatto, uno streamer professionista, ma ciao Andrea, che boni, ci piacerebbe. Abbiamo già subito voglio solamente spettatori, si sa che questi episodi sono fare più questa cosa aspettati di tutto il palinsesto. Perché non si vede. Quindi noi abbiamo fatto le introduzioni per il nostro podcast, che è stato un po' una cavolata, ora che ci penso, perché converrebbe rifarle un po' anche per per lo streaming in questo caso. Quindi per restare sul classico, e visto che non l'ho ancora fatto, benvenuti al nostro focolare elettrico, con anche viso. Io sono Marco. Io sono Jacopo, ma sono confuso perché... sto facendo cose. C'è il video. Sì, scusate, volevo mettere un po' di atmosfera, un po' di cose. Ci sta. Allo Infinite Loop è sempre bello. Esatto, proprio questo. Ci sono dei filmati tipo di 4 ore di Halo Infinite ASMR. È il nostro background, esatto, personalizzato, questo bello ci sta. E appunto, come a questo punto avrete sentito anche voi dal podcast e come state vedendo chi ci segue in diretta su Twitch, quest'oggi abbiamo un ospite speciale, già stato partecipe altre volte. Che si può presentare a questo punto, sto già leggendo la chat e mi sto già incasinando anch'io. Ciao a tutti, sono Edoardo, ci siamo già visti nella puntata, non mi ricordo neanche quale, sono un ospite di merda. Oh mio Dio, Jacopo! Ma grazie! Sono Inception. Bentornato nella giungla. Chi? Bellissima, perfetto. La cosa inglese fa sempre abbastanza ridere. Fammi capire, Marco non si fa vedere su D&D da 20 anni e poi basta una live per farlo uscire? Salla, il potere della diretta, della live. Cioè, esatto. Cosa non si fa pur di avere qualche visual in più? Esatto. Quindi. Grazie Marco. Noi siamo ospiti, quindi direi... Esattamente. Esatto, siamo doppiamente ospiti. Tutti ospiti, nessuno... Se me lo consentite, vorrei solo presentare un nuovo comando in chat, che è punto esclamativo birra, ora lo faccio anche io. Così, giusto per goliardia, diciamo, possiamo offrirci delle birre, così. Mi sono fatto ispirare dal buon Saviero che offre delle pizze, io invece passo direttamente al bere alle birre. Manca solamente il punto esclamativo Gwent ora in onore di Marco. Oddio. Gwent... Parleremo anche di quello. Stavo giusto dicendo tutti gli ospiti, ma nessuno ha portato degli snack o qualcosa da bere. Io offro l'offerta a Nightbot. Perfetto. Scusa Marco, ho aperto una birra a un robot. Probabilmente l'ho rotto ora. Perfetto. Quindi, che dire, abbiamo introdotto noi l'argomento al nostro podcast prima di far partire lo streaming, e forse conviene che il nostro conduttore televisivo introduca l'argomento per i suoi spettatori a questo punto. Allora sì, diciamo che dopo svariate discussioni, sicuramente con Jacopo, con Marco penso sia capitato un po' meno, però ci siamo spesso, diciamo, bloccati a parlare di come una community accoglie un gioco. Non pensando, cioè meglio, la community spesso magari non pensa, non si rende conto di quanto un gioco poi effettivamente sia difficile da realizzare. Sia a livello, diciamo, stasera penso che parleremo prevalentemente proprio a livello di programmazione, di come, di, diciamo, grandezza di del... Anche più tecnico, visto che... Sì, esatto, dal punto di vista un po' più tecnico. Abbiamo in realtà... un professionista con noi, quindi. Esatto, abbiamo due professionisti con noi. Mm. Oggi in realtà questo si può dire relativamente poco, nel senso che la fase di marketing... presentazione del gioco, tutti i trailer nelle conferenze, bla bla bla. Potete recuperare la puntata sull'hype del Focolare Electric. Esatto, recuperare la puntata sull'hype. Diciamo che secondo me almeno svolgono un ruolo abbastanza importante. Per citare il solito esempio ormai banale, eccetera, l'hype, la pubblicità che è stata fatta su Cyberpunk, poi, diciamo, si sa com'è finita. Però vogliamo parlare di positività. Positive vibes. Esatto. Yeah. E quindi niente, diciamo che mi piace cogliere un po' l'occasione dell'annuncio dell'effettivo annuncio della seconda flight di Halo Infinite per parlare anche di programmazione e per parlare di un micro argomento di programmazione che poi tanto micro non è, ovvero lo sviluppo di un gioco nel gioco, nel senso la famosa modalità Forge. Vero. Sì, tra l'altro... Ho parlato anche abbastanza, direi che la mia competenza finisce qui. Tra l'altro non era pianificato, ma sono arrivate anche le mail oggi a molti di quelli che giocheranno la beta, la flight, esatto. Questo weekend e il prossimo. La technical preview non è una beta! Vabbè. Esatto. Prima di iniziare su questo discorso, tutto tecnico complicato, magari direi fare brevemente le nostre due rubriche di inizio puntata. Esatto. Ovvero, cosa avete giocato recentemente? È la prima abbiamo rubrica. Mai trovato un titolo di queste. Sono rimaste così. Cioè, una, vabbè, lo sappiamo che è Download Updates, che è quella di, diciamo, di aggiornamento sulle notizie. Vabbè, non ci sarà moltissimo da dire, però vabbè. La prima, comunque, è cosa avete giocato recentemente? Non so, qualcuno ha... Boh, parto io, mi tolgo subito. Vai, comincio tu, Marco. Pensarlo. Io, essendo riuscito finalmente a trovare una scheda grafica provvisoria, un po' stinfia, ma comunque decente, finalmente avviato The Witcher 3. Dopo tanto tempo che era in libreria. Ma... E sì, purtroppo sì, sono finito nel tunnel che è il Gwent, anche su The Witcher 3, che è comunque... No, Marco, no, ma c'è il gioco apposta! Esatto, c'è quello... C'è il gioco bilanciato... Fatto apposta standalone e tu ti vai a inficcare dentro quello del mondo. Perché non sono ancora riuscito a trovarne uno fatto bene di quei giochi d'avventura di carte in cui tu combatti e poi vinci le carte avversarie proprio una alla volta, come se fosse la saga di Yu-Gi-Oh! Praticamente. Esatto. Quello che ci si avvicinava di più era il gioco delle Magic degli anni 90, che è fatto tra l'altro da Sid Meier, per dire. Wow, nome tosto. Wow. Name dropping così. E questo sul Gwent è un interessante intermezzo tra una caccia e l'altra, mettiamo così, tra intrighi politici e altre scene. Non entriamo nei dettagli. E in pratica sto giocando a quello da circa una settimana, quindi solo a Gwent. Cioè, tu vai in giro, no? E chiedi di giocare a Gwent e basta. Io no, spero non solo Gwent, però un buon 30% secondo me è Gwent. No, puro. Marco, no, no. Marco, ti faccio questa predizione: in The Witcher 4 potrai finire il gioco giocando solo a Gwent. Oh, sarebbe, no, fighissimo, senza toccare la spada. Sconfiggerlo, oh, no, con una sfida di Gwent. Esatto. Sarà, diciamo, 9 volte su 10 sarà una partita di Gwent normale, una volta su 10 sarà una partita di quelle scriptate dove devi tipo parlare, usare axi, fare i segni, le cose strane. No, io mi aspetto tipo che in The Witcher 4 veramente il boss finale, il capo, non lo so, il nuovo spirito padrone delle Wild Hunt, si metta a giocare a Gwent al posto di un combattimento con la spada finale, dicendo: oh, vuoi, no, combattere? Allora tira fuori il tuo mazzo. No, qualcosa di questo tipo. Ma tira fuori il tuo mazzo. Ho temuto davvero male, però... Nel frattempo guardiamo la versione primitiva di... Si sa che i Witcher alla fine hanno 3 spade con sé, quindi... Bene, battute con doppio senso a parte. Voi cosa avete giocato? Io sono stato breve questa... Vai, Edo. Vado io? Allora, io non vorrei fare ripetitivo, però io recentemente ho finito entrambe le espansioni di The Witcher 3. Niente spoiler, allora. 2016 sei tu. Esatto, 2016 sei tu. Però ragazzi, cioè, che dire... troppo bello, cioè giocatelo, cioè le espansioni, già il gioco in sé per sé è spettacolare. Comprate quelle espansioni, Cyberpunk è andato male. Esatto, rifatevi su The Witcher 3 piuttosto che con Cyberpunk, che fra l'altro spero che a breve, bene o male a breve, uscirà la versione definitiva, sì. Però non lo so. A breve uscirà il gioco, sarà finito. A breve uscirà il gioco, ok? Però è veramente troppo bello, cioè, a parte grafiche eccetera, che sono, cioè, comunque, se poi pensiamo che è un gioco del 2016, boh, magari avranno fatto aggiornamenti grafici, patch, non ricordo sinceramente, però tantissima roba. Però ragazzi, la trama non ho mai pensato di non saltare le cutscene come in The Witcher 3. Forse solo in Final Fantasy X, forse è l'unico altro gioco in cui proprio non volevo assolutamente saltare le cutscene, ma... La storia prende troppo. Ok, la smetto con questo rant casuale su The Witcher 3. No, per carità, fai. Poi ho giocato, e qui Jacopo potrà dirlo a maggior ragione tu, a Hades. Ho giocato un po' a Hades. E poi in realtà di nuovo... Niente, ho continuato a giocare un po' a Valorant, un po' a Halo, niente di nuovo. Per tenersi in forma, visto che tra qualche giorno, come dicevo. Esatto. Esatto, visto che questo weekend inizia, ci sarà il primo weekend di Flight. Nel frattempo consiglio anche agli ascoltatori e a chi ci sta vedendo di seguire la community di Halo più grande d'Italia, ovvero Halo Italia. Così, scusate questa pubblicità. Avrei chiesto io quale community in Italia avremmo dovuto seguire. Gli amanti del cut delle cutscenes, consiglio la campagna di Halo 4 in 3 ore con Jacopo. Esatto. 3 ore, di cui 2 ore e 50 sono cutscenes e 10 minuti sono io che corro e vado alla ma prossima. No, stalla. Ho il prossimo sedendosi. Cosa? Intanto grazie per il Prime, Salla. molto gentile. Il prossimo weekend, ah ok, ah. Il prossimo weekend sì, è un weekend, vabbè, Sala, ma d'altronde immagino che tu l'abbia fatto da un iPad o da un iPhone o da un Mac. Mi sa che c'è azzeccato, quindi... Quindi, cioè, nel senso... Vabbè, comunque, io stanotte sognavo di giocare a Infinite perché mi mancava, cioè mi manca giocare a Infinite. Siamo però se non contiamo... Esatto, se non contiamo i sogni... ho finito le due espansioni di Doom Eternal che il buon Salla sta giocando ed è stupendo. Sono due espansioni che, allora, prima di tutto il gioco base mi è piaciuto perché, vabbè, altrimenti non avrei comprato i DLC, ma sono due espansioni che è raro vedere, cioè proprio introducono delle meccaniche, alcune un po', diciamo, punitive, ma altre che avrebbero dovuto mettere nel gioco base, cioè sono veramente meccaniche belle e che si incastrano benissimo nella sandbox Doom. Quindi se qualcuno era un po' indeciso sul DLC, sui due DLC che sono, vabbè, la stessa storia però spezzata in due, giocateli. Ho giocato un po' Hades, come diceva il buon Bratipo. Ho anche giocato un gioco che si chiama Lego Builders Journey, che è... quello che ho capito qual è. Sì. Capito qual è? È un gioco piccolissimo, piccolo piccolo, che dura poco, fatto tutto con grafica assurda, ray tracing, roba assurda, tutto con pezzi di Lego, dove semplicemente tu vai avanti nel livello, sposti i pezzettini e quello, il romino va avanti saltellando. Vuole la 3080 per giocare. E ci vuole, no, ci vuole una scheda grafica della Madonna, no vabbè, puoi anche fare senza, però è graficamente è impressionante e mi ha fatto commuovere quasi. Cioè, io giocavo il gioco perché pensavo, vabbè, sarà una cazzatella così per fondere le schede grafiche, e invece ha qualcosina da dire. Ovviamente è un gioco, una cazzatella di 2 ore, quindi di che, però è molto carino, molto molto carino. E basta, gli altri li ho già detti su podcast, Bowser's Fury, Seconds 2, vabbè, non ci ho parlato. Sarà un po' particolare questa puntata perché non è passata neanche una settimana. No, infatti okay. Anche di notizie non ne sono uscite tante, nel senso non abbiamo cose particolari, cioè notizie che sono uscite dall'ultima puntata, quindi direi download updates possiamo evitare, non lo so, o avete qualcosa da dire di novità, ultime novità? L'unica cosa che ho sentito è adesso che anche la Cina ce l'ha con i videogiochi, ma a parte quella... Ah, vero, sì, è vero, ho visto anch'io, vero. Che vogliono limitare il, diciamo, le ore spendibili durante la giornata agli adolescenti, poi in generale ai ragazzi... Prima dei 18 anni, se non sbaglio, non so se era quella la maggiore età in Cina, sì, non mi ricordo. Qualcosa del genere. Soprattutto per i bambini sotto una certa età. Esatto. Beh, che dire, sempre un posto più... posto sempre più piacevole la Cina. Piccolo commento sociale. Piccolo commento sociale. Piccolo rant. Stai attento che ci sono i furgoni neri davanti a casa tua, Marco. Quello che dici. Esatto. Adesso sfondano la porta. Secondo una posta, esatto. E quindi vabbè, non ci sono notizie particolari degli ultimi 5 giorni quando abbiamo registrato l'ultima puntata. La Blizzard, no, in realtà no, hanno chiamato in giudizio, no, ma si dice hanno consegnato un sappina, un appunto un'apparizione in giudizio a Bobby Kotick, tipo. Gli hanno detto devi venire pure tu in tribunale. Ci vediamo in tribunale. Mamma mia, però, ragazzi. Quindi, se qualcuno ha comprato delle azioni Blizzard 2-3 giorni fa, mi dispiace. Ho una brutta notizia per voi. Se qualcuno invece le ha comprate prima, Odl, come dicono gli investitori, era da shortare probabilmente. Sì. Questo bene, direi che la parte più difficile della puntata è passata a questo punto. quello in cui dovevamo rivelare i nostri peccati giocosi di questa settimana. Esatto. E a questo punto direi che si passa all'argomento principale, Jacopo. È questo che... Beh, Edo, beh, sì, dai. Come tu pensai, nello stile del focolare elettrico, noi non sì. abbiamo preparato assolutamente niente per stasera. Ma neanche abbiamo io, quindi siamo perfetti. Impreparati con un po' di voglia di fare, mettiamola così. Siamo sì, molto, sì. Abbiamo molta passione, diciamo, ma non ci applichiamo. No, io ero spaventato, devo ammettere, ero un po' preoccupato che stasera, cioè, ero preoccupato di non avere cose da raccontare, cose da dire, cioè esempi, controesempi, così. Poi oggi... Tuttavia. Tuttavia, come al solito, per queste storie nel mondo dei videogiochi devi fare letteralmente 5 metri e sbatti contro un tizio che ti racconta qualcosa. Perché oggi, per caso, ho visto un documentario su YouTube... di No Clip, che consiglio tantissimo, per favore, cioè, supportateli perché sono bravissimi, su Arcane Studios. Sono quelli di Dishonored, Deathloop, principalmente sito di Dishonored, sono conosciuti per quello. Hanno fatto anche però Prey, l'ultimo Prey, quello il reboot, diciamo. Ah sì, non l'ho ancora visto quell'episodio. Poi è un episodio recente, tipo meno di una settimana fa, un paio di settimane fa, credo. E vabbè, non vi sto a raccontare che cos'è Prey, perché, cioè, nel senso, i dettagli sono essenzialmente un gioco bello, nel senso è un... Perché dovresti descriverne due di gioco? Beh, Prey 2016, tipo, 2000, non mi ricordo quando è uscito, 2017 forse, 2018, non lo so. Prey è il reboot... è appunto un reboot con lo stesso nome di un gioco tipo del 2006, non so. Che a me è piaciuto pure molto, e anche al buon Andrea Stratto. E... quel gioco, non so se ti ricordi, era dove a un certo punto andavi tipo sotto sopra, o in arco. Sì, ho capito qual è. E camminavi sulle pareti, sui soffitti, eccetera. E hanno fatto questo reboot, vabbè, gli avevo detto chiamatelo Prey, perché abbiamo il marchio, va bene, ma non c'entra un cazzo con Prey. È un gioco molto simile, per chi lo conosce, a System Shock o Bioshock, molto, diciamo, a metà fra un horror e un loro fanno questi giochi che sono molto sistematici, molto immersive sim, cioè tu puoi tipo combinare delle meccaniche tipo del giocatore con l'ambiente per giocare in maniera creativa, insomma, è tutto molto aperto, molto libero a questi mondi molto... cioè, sono livelli comunque pensati, nel senso non è un mondo completamente aperto, ci sono livelli proprio di solito, però di solito si possono esplorare molto, sono molto aperti, sono molto liberi da affrontare, mettiamola così. Non ricordo male? No, non voglio... No, continua. C'era una meccanica figa, che era che tu praticamente potevi, sia tu che i tuoi nemici, potevi diventare qualsiasi cosa che c'era nell'ambiente. Quindi tu potevi tipo vedere una tazza, diventavi la tazza. Vedevi un microscopio, diventavi il microscopio. Uh-huh. E il motivo per cui non l'ho giocato è che anche i nemici possono farlo. Quindi tu stai camminando, vedi una tazza, la tazza ti salta in faccia come un gatto. E vi giuro, la prima volta che mi è successo, che io stavo camminando tranquillo e un mimic, si chiamano mimic, mi è saltato in faccia... ho spento il gioco e l'ho disinstallato istantaneamente per lo spavento. Quindi non è un gioco per me. Mi piacerebbe poterlo giocare, ma so che al momento non ce la farei, c'è troppi jumpscare. Però è un gioco molto bello, molto profondo nelle meccaniche di una storia. No, vabbè, la storia non la so spoilerare, però vabbè. Perché ne sto parlando? Perché quando uscì il gioco, una recensione, non facciamo nomi, IGN, gli mise 4. Okay. Allora, IGN è famoso sull'internet, perché mette voti molto alti. Cioè, il solito meme, 10 su 10 IGN, okay. Cioè, su tutte le recensioni di videogiochi, no? Fa recensioni un po' superficiali, cioè è un tipo di recensione molto da... mega conglomerato, no? Nel senso, tu non è che segui. Esatto, altre... Esatto, comunque un voto più alto della mia media è quello di del latino, sì, ma anche sommati. Direi che abbiamo perso definitivamente lo sponsor IGN. Esatto, abbiamo perso IGN. No, vabbè, IGN è comunque pieno di persone brave, serie, tutto quello che vuoi, però ci sono poche persone lì dentro che tu riconosci come che hanno, cioè, che hanno una voce, no? Che hanno un'opinione, che hanno, non so come dirlo, no? È un po' tutto un mischio come IGN, no? È quel tipo di azienda che assorbe la Sì. critica, ma questo ne parleremo nel prossimo episodio, non in questo, nella prossima live. Era per dire che il motivo per cui il recensore aveva messo 4 su 10 era perché dopo 30 ore di gioco c'era stato questo crash che gli impediva di andare oltre. E quindi ho detto 4 su 10, sto gioco non sono riuscito a finirlo. Quello che ho giocato finora è bello, è bellissimo, ma questo crash è inaccettabile, cioè che io dopo 30 ore non posso andare avanti. Giustamente tutti quelli sotto al canale, cioè al filmato, cioè al video su YouTube, hanno insultato sto recensore, dicendo, ma che cazzo, cioè, non puoi buttare fuori dalla finestra un gioco intero perché tu hai avuto questo problema in un gioco così complesso come Prey, così sistematico. Ed è vero, cioè nel senso, da un lato mi dispiace, cioè capisco. E ovviamente, cioè, essendo anche dalla loro parte, capisco, cioè, capisco come ci si può sentire, ma capisco anche, cioè, è stata quasi una sfiga, no? Che abbiano preso come esempio, cioè, hanno voluto fare di Prey un esempio, no? Perché poi questo voto, magari, ok, è un voto che tu puoi ignorare, ma va a finire in una media, la media va a influenzare i bonus sugli stipendi, va a influenzare i budget per il prossimo gioco. Comunque il gioco non ha fatto così tanto successo, quindi tipo il DLC Moon Base, tipo Moon qualcosa, non mi ricordo, c'è un DLC bellissimo che è un roguelike, è stato ignorato. Quindi Questo insomma, cioè, questo 4 su 10 fondamentalmente ha Un azzoppato pochino, sì, un pochino sì. Il discorso intorno a Prey si è un po'. un po' spento. Con questo non voglio prendere la parte né del recensore né di Arcane. Cioè, sto dicendo che, ripeto quello che ho detto a Vorla, al signor Vorla l'altra volta, nessuno vuole fare un gioco brutto. No, infatti penso che la chiave del discorso sia questa, fondamentalmente. Se ricordo bene, da quello che mi raccontavate, è un po' partito anche da qui tutta la discussione, l'idea di fare questo episodio, cioè che Sì, esatto. Sì, ma molto spesso perché... chi non ha idea di che cosa c'è dietro il videogioco, di come si incastrano le varie parti, può non rendersi conto effettivamente di cosa, magari di quello che potrebbe essere un errore così casuale che per quanto sfortunato è successo, rispetto alla visione d'insieme un po' più grande, un po' più complessa. Esatto. Sì, che poi, cioè, da un certo punto di vista è giusto, nel senso che, cioè, ora qui faccio l'avvocato del diavolo, però No, va bene. effettivamente tu stai pagando per un bene, se il bene non è fatto come, e qui apriamo, cioè si potrebbe avere un qualsiasi mondo di discussioni infinite, se il gioco non è come lo vorresti. Boom, cioè nel senso che vuol dire come lo vorresti? Vabbè, mettiamola così. Allora ti lamenti. Ma in Però realtà la cosa bella è che, cioè, non è neanche come lo vorrebbero gli sviluppatori a volte. Cioè, nel senso, immagino. è come quando stai facendo un compito o un esame scritto. A un certo punto devi alzare la penna dal foglio, magari volevi continuare Esatto, a scrivere. cioè, questa penso che sia veramente una delle tue similitudini più Esatto. azzeccate. Qui Luca può confermare. Gino qui ha Gino perso approved. Ha Max. Esatto. avuto l'illuminazione. Beh, da quello che hai raccontato sembra quasi di più, cioè l'equivalente che ci si avvicina di più è quasi come se uno andasse a comprare un DVD o il Blu-ray di un film, e la copia è difettosa e a quel punto dà un brutto voto al film solo perché non è riuscito a finire di vederlo. No, no, non è questo. Cioè, è diverso perché nel caso dei videogiochi non è, cioè, non è una cosa che riguarda solo te, non so come dirlo. Cioè, se fosse, allora, se il problema di Cyberpunk fosse che solamente alcuni, tipo pochi, hanno avuto problemi tecnici, sti cazzi. Il problema è che il gioco ha problemi tecnici e questo è innegabile ed è, come posso dire, è qualcosa che i film di solito non hanno, perché raramente un film esce. No, no, mi riferivo giusto a quell'esempio che avevi fatto tu, perché alla fine sembrava più che fosse stato il recensore ad aver avuto un problema. Ah, nel caso di Prey, sì. Infatti, infatti per quello non prendo le parti del recensore, perché a un certo punto devi anche renderti conto di quello che stai... Cioè devi un po' estraniarti da te stesso in un certo senso, ma devi prendere coscienza di quello che stai facendo e di quello che ti è successo. Ora, è difficile farlo quando il gioco non è uscito perché ci sono poche persone con cui puoi confrontarti e giustamente alcune di queste persone hanno interesse a minimizzare perché sono quelle che ti hanno dato la copia, ovvero l'azienda stessa, no? Perché... In caso, cioè, vabbè, questo ne parleremo in un altro episodio. Comunque, spesso sono le aziende, i publisher a dare la copia ai recensori. Mm. Forse ci conviene dare più, cercare almeno di dare una struttura un po' di anche a questo episodio per vedere, perché quello che hai fatto tu è un esempio lampante di quello che ci ha spinto a parlare un po' di questa cosa. Come dicevo prima, proprio la discussione è nata dal fatto che molti non hanno idea di quello che c'è dietro a un videogioco, di che cosa... In realtà, sì. Sì, che non è una colpa, nel senso, no, giustamente, no, infatti, voglio no, dire. No, no, no. Ed è quello appunto che dicevo, magari possiamo iniziare un po' la discussione anche con cercando di dare un'idea di che cosa c'è dietro. Poi, ovviamente, per chi vuole forse discussioni più filosofiche e approfondite sul riguardo, può vedere i primi episodi del podcast, un piccolo... O ripeto, la prossima puntata dove saremo più filosofici. No, la questione è nata, il discorso, cioè il motivo di questo episodio è che in realtà, cioè non è questa cosa di Arcane, di Play, stiamo facendo un discorso, una lamentela, io e Bradipo, su Discord, in privato, uh-huh. E allora diciamo, perché non ne parliamo nella live, quindi poi è uscita fuori questa idea. Parliamo di cazzate, perché non farlo in live? Esatto, eravamo annoiati così durante cioè il discorso era questo: era uscita la notizia che Halo Infinite non avrebbe avuto la campagna cooperativa e la forgia, la fucina, al lancio. Giusto, giusto, questa era la vera notizia. Ricetta. Era la vera notizia, era il punto dolente, il tasto dolente del giorno, diciamo. E questa notizia aveva scatenato l'ira, giustamente l'ira dei fan, diciamo. Giustamente. Hanno ovviamente. Nome i fan di Halo? Sono... Ale, sì. Alani. Alani. praticamente sì, in un video, quindi non in un post, ma in un video con Sketch e con Staten, che c'è. Cioè, appunto faccia a faccia parlavano e appunto hanno annunciato non ci sarà la cooperativa per i primi almeno 3 mesi del gioco, quindi dai tre ai 6 mesi dopo arriverà la cooperativa, forse, e non ci sarà fucina per almeno 6 mesi, quindi dai 6 ai 12 pare sia il range più o meno di fucina, da quello che ho capito, magari ho capito male io. Sì, più o meno ricordo gli stessi range, però poi lì perché... immagino che si vedrà. Sì, parlavano di stagioni, perché andranno un po' in concomitanza con le stagioni del multiplayer, free-to-play, quindi questo insomma è la notizia. Ovviamente lui ha introdotto, cioè Staten stesso ha introdotto come direttore del gioco e come direttore storico di altri Halo, ha detto so che la cooperativa è un'esperienza molto centrale, c'è sempre stata in tutti gli Halo, però ho dovuto fare questa scelta per riuscire a shippare il gioco in tempo, a rilasciarlo l'8 dicembre, forse, se tutto va bene. Stessa cosa per... sì, ricordiamo che è ancora un po' in forse, dovrebbe essere abbastanza sicuro, ma... No, no, cioè è l'8 dicembre, però arriviamo al punto della, mettiamo della le mani avanti, speriamo di non avere un'altra situation cyberpunk, è questo che stiamo... Ma oddio, situation cyberpunk, no, è troppo estremo. Almeno da quel che abbiamo visto con la flight, con la prima flight, è quello che spero vedremo nelle flight a breve. Boh, io credo, spero che non ci sarà l'evenienza. Poi, appunto, arriviamo al punto del discorso. Jacopo sicuramente, e anche tu Marco sicuramente, potete dire qualcosa di più al riguardo. Avete idea di come si programma, insomma, quindi di come si programma un videogioco. Quindi magari potete dare alla chat e agli ascoltatori qualche... non lo so. Sì, qualche dritta, un po' di inside trading, fra virgolette. Infatti era proprio questo che volevo cercare di capire, quanto volessimo entrare nel tecnico, quanto volessimo entrare nel dettaglio senza far annoiare troppo tutto il pubblico. Posso fare una domanda molto stupida? Assolutamente. Ma proprio stupida. Ma, cioè, più o meno, diciamo, quando si parla di codice di un videogioco, cioè, di quante righe di codice stiamo parlando? Beh, così. Ci sta effettivamente come domanda, perché forse è una cosa che i programmatori non ci pensano quasi più a questo punto di come si è sviluppato. La chat dice 12. Almeno 12, sicuramente. Almeno 12. Questo è poco ma sicuro. Diciamo, ipotizzando di non dover fare, che ne so, un motore grafico da zero, cioè di avere, diciamo, qualcosa di prefatto, bene o male, cioè forse è una domanda troppo stupida e non si può dare una risposta, però no, non è stupida, il fatto è che sono numeri grandi, cioè tipo milioni di linee di codice. E non sono, cioè dipendono dal gioco, come dici tu, se hai già l'engine fatto, se il codice che stai facendo è stato fatto solo per quel gioco o se è riciclato, dipende. È una domanda più che è veramente situazionale, perché come dicevi tu, come stava dicendo Jacopo, è una cosa contare solo il codice scritto dai programmatori usando un engine magari di quelli free, non free, però diciamo quelli, come dire, con una licenza più pubblica tipo Unity o Unreal, o hanno creato già anche tutto l'engine da soli e hanno costruito tutto partendo da zero, perché quello direi che non raddoppia, tipo triplica, forse anche quadruplica le linee di codice, dove creare già l'engine oltre al gioco. E questo è parte del discorso di oggi, in realtà. E poi... Esatto. Questa è una cosa che secondo me, cioè, è importante precisare. Cioè, Halo Infinite non avrà un motore prefatto, precompilato, pronto, bello lì, sta lì, tu lo prendi, lo usi come ti pare. Cioè, Halo Infinite avrà un motore scritto da zero. È un motore che, secondo me, si basa molto su quello di Halo 5 e Halo 4, sicuramente. E quindi, probabilmente, come, diciamo, piattaforma di partenza è quello. Non penso sia completamente scritto da zero. Però, come dici tu, cioè... Ok, io forse non sono troppo... No, è giusto. Cioè, ho letto un tweet di qualcuno che ha scritto tipo Halo Infinite è stato rinviato perché comunque ha avuto problemi di sviluppo perché hanno dovuto sviluppare l'engine insieme al gioco. E Jason Schreier, che è un famoso giornalista di videogiochi, ha risposto al tweet: puoi cambiare le parole Halo Infinite con letteralmente ogni titolo AAA. Cioè, perché alla fine è sempre la stessa storia, cioè Cyberpunk uguale, The Last of Us Parte 2 uguale, un po' di meno, vabbè. Tutti, cioè, perché qualsiasi gioco... Adesso non, forse non, chi non se ne intende molto non ha idea di quanto... Quello che vede, quando vede per esempio anche solo questo trailer che stai mandando su Twitch di Halo Infinite, che mostra, mostra gameplay, cioè gioco renderizzato, non si rende conto di quante... di quanto una cosa del genere non dovrebbe esistere in realtà, perché se non avessero scritto letteralmente tutto l'engine e tutto il motore grafico da zero, ottimizzato per quello che serviva a loro e per le varie console su cui dovranno distribuire il gioco, esatto, anche questo secondo me è un punto focale, comunque è impossibile realizzarlo in altra maniera. Tutti i titoli AAA, mamma mia, non so già più parlare, che spingono soprattutto grafica e performance di mondi molto grandi e molto aperti su, e vogliono fare in modo che funzionino su varie console con vari porting, sono obbligati praticamente quasi a scrivere da zero il loro motore, il loro engine di gioco, perché altrimenti sarebbe praticamente impossibile riuscire a ottenere delle prestazioni eccellenti. E come appunto, non importa se ci metti 7 anni, come diciamo prima di Cyberpunk, fare, come dire, anche riuscire, anche con tutto il tempo del mondo, arrivano a dei livelli di complessità così alti, così enormi, che non è, diciamo che non sorprende ciò che è successo con Cyberpunk, perché no, avere una minima idea di quello che c'è dietro te lo potevi aspettare. Infatti, sentendo, penso anche Jacopo concorderà con me, guardandosi in giro e guardando tipo tweet o commenti di chi è più all'interno del settore, c'è la gente da sorpresa che stessero già annunciando e volessero già uscire così presto, nonostante avessero annunciato, cioè, no, più che così presto, diciamo, si sorprendevano a volte di vedere cose già così, che sembravano così pulite nei trailer, di quanto non potessero più, di quanto non si aspettassero potessero essere dietro le quinte, appunto. Cioè, si sentiva già, per chi se ne intendeva un po', quell'odore di stanno facendo tante tante promesse per tutto quello che vogliono, che vogliono fare in realtà. Cioè, c'è un po' troppa carne al fuoco per il tempo e le risorse che hanno, insomma. La cosa che allora, questa puntata, noi la stiamo facendo dopo un'altra puntata che si chiamava Eroica. Questa puntata si chiama Leggendaria, Heroic Legendary. E nella puntata precedente abbiamo parlato di difficoltà nei videogiochi, quindi tu giochi ad Halo, selezioni Eroica, quella è la difficoltà. In questa puntata vogliamo parlare del fatto che sia difficile farli, i videogiochi. Del livello di difficoltà superiore. Diciamo. Esatto, di difficoltà superiore. E se ci fosse un livello di difficoltà massimo, sarebbe fare un videogioco insieme all'engine, facendo cose mai fatte, sul console anche, con dentro un tool, con multiplayer, con dentro un tool, con multiplayer, però. Ed è questo che è Halo Infinite in un certo senso. Come? Sì. O comunque con funzionalità online. E Halo, come diceva Jacopo, spunta tutte queste caselle. Forse il fare cose mai fatte a livello di engine, aspetterei a dirlo, ma Halo è un progetto complessissimo. Come dicevamo prima, cioè scrivere già un engine da solo è una cosa di un carico di lavoro incredibile. Perché un engine è, considerate, un insieme di... Infatti questa è la domanda che volevo fare, cioè stiamo parlando di engine, ma cos'è un engine? Ok, che cos'è un engine? Un engine è uno strumento, è un programma, che è in realtà un insieme di funzionalità, è un insieme di librerie, mettiamola così. Quindi tu, che ne so, quando scrivi un programma, devi dire esattamente cosa deve fare il computer. A volte ci sono altre persone che l'hanno fatto prima di te, quindi se hai bisogno di moltiplicare una matrice per un'altra matrice, c'è una libreria di Python o qualsiasi linguaggio c'hai, dove qualcuno ha già scritto la funzione che moltiplica una matrice con un'altra matrice, no? Per fare proprio l'esempio banale che si fa in tutti i corsi di informatica, penso, del mondo, è la questione del non reinventare la ruota, no? Quando sai che ti serviranno, che ti servirà che il tuo programma, in questo caso il gioco, faccia certe cose, certe funzioni, tu sai che esistono altri programmi scritti da altre persone su cui puoi costruire il tuo come un mattoncino, come una prima base solida da cui partire. Queste vengono chiamate librerie. Esatto. O come magari qualcuno può conoscere, non so, Matplotlib per, cioè, su MATLAB in Python, NumPy, SciPy, cioè tutte queste, sì, queste cose qui, insomma. È un po' come quando il pittore non si crea i colori da solo, ma va a comprare i colori al negozio prima di mettersi a non i pigmenti Pantone, esatto, 412. Un esempio. Ragazzi, stasera a livello di similitudini e metafore siete cari, mi piacete. Non sono solo io che le sto facendo. Ok, vabbè, quindi diciamo, ok, quindi il primo livello base è non reinventare la ruota. Quindi il primo mattone è avere qualcosa che ti permette di scrivere un codice che non è codice macchina binario 0100 oppure vabbè assembly così. Quello magari è un livello ancora. Quello è scrivere le tavolette di pietra. È avere una libreria che ti mette in contatto con la macchina che c'è sotto di te e per i videogiochi specialmente con la scheda grafica, che è quella che ti fa vedere i pixel sullo schermo in questo momento. Quindi hai delle chiamate di questa scheda grafica e puoi scrivere programmi che girano su quella scheda grafica. Una volta erano programmi molto semplici, molto fissi, perché potevi fare solo una cosa. In alcuni casi venivano fuori un po' male, perché tipo mi ricordo su PlayStation 1 le chiamate grafiche che potevi fare non avevano per esempio la correzione prospettica delle texture, quindi tu quando vedevi quelle texture che si piegavano di continuo, tipo su Crash Bandicoot, è perché mancava un passo nei calcoli per farli più veloce e quindi non avevi neanche la correzione, diciamo, la compenetrazione fra i poligoni, quindi l'ordinamento ne sceglieva uno. Tu, se c'era un triangolo e ce n'era un altro che lo intersecava, avevi due triangoli, no, che sbattevano, uno era davanti all'altro, non potevi avere che si intersecavano. Se qualcuno è curioso, c'era una demo famosa del T-Rex, visto T-Rex nella PlayStation 1, che all'epoca, oh, il T-Rex enorme, adesso fa cagare così, e hanno rimessa anche in Astro Boy, su Astro Bot, come si chiama, la demo per PlayStation 5. E se tu vedi però le zampe del T-Rex, cioè, sono tutte sbattate, tutti sballati gli angoli. Vabbè, comunque, una volta era quello e basta. Cioè, tu, qualsiasi gioco, Croc, Crash Bandicoot, se ci fate caso, si assomigliavano tutti, no? Erano tutti molto simili come feature, no? A un certo punto, con il passare degli anni, è arrivata l'era dell'Xbox 360, della PS3, eccetera, siamo arrivati ad avere delle parti della, diciamo, si chiama pipeline, cioè delle parti del processo che crea quello che tu vedi sullo schermo alla fine, molto più programmabili, molto più flessibili. Findo. Findissimo. Scusate, saluto la chat. Ciao. E siamo arrivati a poter dire all'Xbox, alla scheda grafica del tuo PC, della tua Xbox o PS3, questo pixel fammelo più così. Cioè, capito? Cioè, puoi fare le cose per pixel, puoi dire... E questi programmi si chiamano shader. Tu puoi scrivere uno shader, per esempio, che ti prende un pixel, vede, che ne so, che è vicino, non so, sto facendo un casino, non studiate, cioè non citatemi questa roba. Tu dici, questo pixel è vicino ad un'insegna al neon, che è marchiata in questo modo, quindi il suo colore lo modifica di un tot. Quindi se c'è un neon viola, il pixel magari, siccome è molto vicino, viene, c'è quell'effetto, capito? Il neon fa quell'effetto neon. Jacopo è partito fortissimo, non lo ferma più nessuno. Scusate, oggi le similitudini proprio... Vabbè, però questo non è un esempio, non è una similitudine. No, questo è reale. No, questo ci sta, cioè è legittimo. Assolutamente, un esempio... un esempio di quello che è successo, ovvero è aumentato di tantissimo il controllo, ma di conseguenza è aumentata ancora di più la complessità per quanto riguarda soprattutto riuscire a ottenere delle buone performance. Quello che ha citato Jacopo, per esempio, gli shader al giorno d'oggi sono essenziali, perché altrimenti, come dire, sono l'unico modo per riuscire a ottenere degli effetti particolari senza andare a far esplodere il processore della console, del computer, perché altrimenti se ci fossero da fare questi calcoli in maniera più... Vabbè, non entriamo troppo nel dettaglio, però diciamo... Beh, diciamo runtime comunque sarebbe... Sì, è una questione di più in parallelo e lineare e non, in sequenza che in realtà runtime o non runtime. Però sì, come dire, sono tutte nuove tecnologie che vengono sempre create, aggiunte a tutto il processo, a tutta la pipeline, come diceva Jacopo, solo che a ogni nuova tecnologia tu puoi fare mille cose in più, sicuramente, ma ci deve essere qualcuno all'interno dello studio che poi deve imparare quella nuova tecnologia, deve specializzarsi, deve leggersi tutta la documentazione di quella nuova tecnologia e poi riuscire appunto a creare quello che serve per il gioco che stai creando. E come penso che Jacopo confermerà, da come mi racconta anche lui, a volte quando addirittura queste nuove tecnologie, dicevamo prima, sono intere librerie, interi sistemi, come possono essere sistemi fisici, oltre che grafici, oltre di magari networking per il gioco multiplayer o funzionalità online, eccetera, ci sono quelli che oltre praticamente fanno da intermezzo tra il team di sviluppo del videogioco stesso e quello che sviluppa il tool che la casa di produzione sta utilizzando per fare il suo stesso videogioco, e quindi deve studiare tutta la documentazione del tool, conoscere il videogioco stesso, riuscire a far comunicare insieme le due parti. Giusto per dire, non è proprio una di quelle cose, non... per fare opere del genere non bastano più quel gruppo di 10 persone. C'è un motivo se Esatto. i AAA ci impiegano quanto in media adesso? Forse 200 minimo impiegati per 200 anni. anche. E sono appunto No, lavori che ci mettono anni a farlo. E poi abbiamo, giusto per finire di dare un po' l'infarinatura generale, abbiamo dato l'idea dal punto di vista spaziale, diciamo, della complessità di quante parti ci sono in gioco nello stesso momento, ma appunto, come dicevamo, c'è anche da considerare il fattore temporale, ovvero che il team ci mette anni per sviluppare questo videogioco e in questi anni le console cambiano le tecnologie, quindi ogni giorno Esatto. ogni impiegato che si occupa di particolari tool deve aggiornarsi sul proprio tool, e quando qualcosa cambia in un tool, qualcosa di esterno magari cambia di esterno dalla casa di sviluppo cambia, come un tool, una libreria, cosa del genere, qualcosa all'interno della casa non funziona più, quindi nuovi bug, nuovi problemi si aggiungono a tutta all'ammontare di quelli che già esistevano e che sono ancora più complessi da risolvere perché di nuovo sono cose esterne alla casa. Ed è tutto questo grandissimo come dire, questa grande tempesta, questo polpettone di situazioni che può formare durante lo sviluppo. Però poi diamo 4, quindi può succedere. No, vabbè. No, vabbè, cioè diciamo che il discorso secondo me deve essere anche che ora non è che perché un gioco è difficile da fare, allora possiamo dire ok, vabbè, però ok che è una merda. D'altra parte però bisognerebbe, cioè, secondo me la community dovrebbe, un po' tutte le community dovrebbero avere un po' l'idea del ok, magari è una merda, va bene, ma perché? Cioè, nel senso, non è banale, gestire lo sviluppo, gestire, appunto, ripeto, il marketing, gestire qualsiasi cosa che poi esce, diciamo, dallo studio che poi crea il videogioco, insomma. come dicevate giustamente, se poi il gioco vuole cercare di, oppure deve, per non lo so, per imposizione dall'alto, essere un gioco AAA, insomma, vuol dire che il lavoro che c'è da fare dietro è tanto, difficile, e poi questi due anni l'abbiamo visto, diciamo, può succedere un po' di tutto, quindi diciamo che... Sì, anche fuori dallo studio, certo. Esatto, anche fuori dallo studio, quindi... insomma, purtroppo sono cose che vanno tenute in considerazione, quindi... diciamo, il rinvio della Forge e della Coop, secondo me, ci sta, nel senso... Perché dobbiamo avere due funzionalità fatte male, magari? Non te le devi godere, le devi sfruttare senza diciamo, appunto, godertele appieno. Quindi, boh, cioè, vale la pena poi lamentarsi? Sì, ok, magari può dispiacere, però, boh, bisogna fare una tara. Quello che diciamo prima, per finire il percorso, no? Tu hai già quindi la complessità di dover scrivere qualcosa che si appoggia a queste librerie esistenti per accedere all'hardware. Come diceva Marco, diventano sempre più vicine all'hardware, vicine, cioè proprio molto molto vicine all'hardware, e ovviamente più si avvicinano all'hardware, più diventano complesse e, come dire, complicate da mantenere, no? Cioè da avere esatto, in ordine. Esatto. Quindi abbiamo già milioni e milioni di righe di codice da scrivere per avere l'engine, perché l'engine in realtà è una cosa ancora superiore. Quindi hai un tool che è molto, di solito, molto più complesso del semplicemente far vedere le cose. Tu hai ovviamente il motore grafico, che spesso è sinonimo di engine perché viene da lì, graphics engine, ma quello è solamente quello che serve a farti vedere roba. Poi hai un tool per creare i livelli, magari hai un tool per fare editing di materiali, per esempio, no? Tu vedi tipo, che ne so, una roba metallica, cioè magari un tool per creare quell'effetto metallico in quel modo. Quindi hai tutti questi tool, e questi tool sono programmi, cioè sono altri programmi che qualcuno ha dovuto programmare, sono altri milioni di righe di codice, cioè... Esatto, non è una cosa che c'è già, dici, vabbè, ok, lo piglio, lo uso, cioè magari qualcuno sì, ma magari molti altri no, quindi... E di solito, cioè, quello che succede è che a livello basico, magari all'inizio, vengono fatte delle scelte, e queste scelte vengono fatte ovviamente con buon senso, con... ovviamente da persone di solito molto esperte, ma creano di solito dei debiti. Ovvero, tu più vai avanti con lo sviluppo, più alcune di queste scelte si rivelano non azzeccatissime, vanno un po' riviste, specialmente quelle che poi piano piano vengono fatte per finire, per dare una finita al progetto. Questo debito, questo tech debt si chiama, a un certo punto deve cominciare a scendere, cioè tu hai accumuli debito all'inizio, letteralmente come in un investimento finanziario, accumuli debito per riuscire ad avere un prototipo, ad avere un engine, ad avere un gioco finito, così, ma questo debito... Io direi anche solo qualcosa da presentare al pubblico. Solo... Per esempio, e questo debito poi lo paghi. Nel caso di Halo 2, ricordiamolo, due, lo paghi praticamente realizzando che tutto il lavoro che hai fatto per la demo lo devi buttare perché non serve un cazzo, o quasi. Ricordiamo la demo di Halo 2 del 2003. Stessa cosa per Cyberpunk, quella demo non c'era nulla di vero, c'era tutto fatto per la demo, quindi lavoro inutile. Quindi Joseph Staten, che dice non voglio togliere il tempo allo studio per fare una demo della campagna perché ci mettiamo tempo a farla, è vero, cioè ci vogliono mesi di lavoro, e quindi se consideri tutto il lavoro che c'è per fare i tool, per ottimizzarli, per aggiustarli, per rimuovere il tech debt, per aggiungere tech debt per finire cose, più il lavoro per fare il gioco stesso, complessità esplosa. Quindi questo era per finire un po' il discorso, diciamo, della... Per togliere ogni dubbio, dopo aver dato questa immagine generale dello sviluppo, nel caso ci fossero ancora dei dubbi, sappiate che la risposta è sì. La maggior parte dei giochi che giocate è tenuto insieme con lo sputo, la maggior parte... Allo 2 è... Cioè... Mi piace questa conclusione. Letteralmente tenute insieme, a volte per miracolo è brutto dirlo perché sembra che tutto il lavoro degli sviluppatori sia una bazzecola, ma no, cioè nel senso, a volte capita molto spesso, soprattutto in situazioni in cui c'hai uno studio dietro che ti dice quando rilasci, quando lanciamo sto gioco, che soprattutto nelle parti finali un po' venga messo tutto insieme alla bene e meglio per farlo uscire, e poi dopo appunto con le day one patch e tutte le patch successive varie cose vengono risolte fino a un certo punto, diciamo. Esatto, questa è la realtà attuale, no? Che una volta uscivano i giochi erano finiti, adesso no. Esatto. Quindi diciamo, okay. Quando... No, il discorso di Marco mi ha fatto un po' venire in mente il solito meme, diciamo, da informatici: oh, my code is working, I don't know why. Oh, my code is not working, I don't know why. Esatto. Posso confermare che rimarrà per sempre. Non ho mai capito quel meme lì, perché è quello che succede veramente. Non è un meme, esatto. È la battuta. È una citazione. Reale di quanto possa sembrare. E quindi, diciamo, quello che succede quando non riesci a sistemare il tech debt, non hai abbastanza tempo per un, diciamo, chiamiamolo un cancello, non un cancello, hai un checkpoint da raggiungere, diciamo, non puoi sfuggire, hai una data d'uscita che corrisponde con delle proiezioni economiche, cioè ti si finiscono i soldi, cioè non è che uno vuole fare il materialista, però... Se non hai soldi per pagare gli sviluppatori, cioè il gioco deve uscire. Oggettivamente. Se posso permettermi di fare una metafora anche io, è un po' come quando vai a fare un progetto barra costruire una casa. Sì, ok, tu puoi fare il progetto figo quanto ti pare, ma se poi finisci i soldi e non paghi gli operai che ti costruiscono la casa, la casa non si costruisce da sola. Quindi... No, finisci pure, Jacopo, poi avremo... No, il discorso è questo. Se non hai più soldi, se... Sei, hai pressioni da ogni lato per far uscire il gioco a una certa data, a voglia siamo qua di non doveva uscire, doveva tardare un altro anno. È vero, però devi sperare che togliendo delle feature, delle caratteristiche del gioco, delle meccaniche, tu riesca a spostare gli sforzi sul fare polish, gioco di parole non intenzionale con Cyberpunk, a fare pulizia, a fare rimozione dei bug il più possibile. Cioè, è una cosa che, aggiungendo nuove funzionalità, nuove cose, c'è sempre il rischio di fare. In Aegis, per esempio, se ti ricordi lo scudo che lanci, no? La Y, c'era un bug per cui c'era una... Se tu prendevi un dono di un dio, gli aggiungevi un danno. Il problema è che questo danno si applicava anche a Zagreus quando tornava lo scudo. Quindi tu lanciavi lo scudo tornava e ti ammazzava. Ok, simpatico. Simpatico sto bug, no? È un bug che hanno trovato letteralmente tipo il giorno dopo che hanno mandato sulla build per quando era in early access. Che ci si metteva poco a risolvere. Però, cioè, sono quelle cose che... Per un gioco specialmente complicato come Aegis, con tante combinazioni di cose, praticamente è consigliabile in realtà questa strada. Cioè, il fatto di aver tolto meccaniche da Cyberpunk in realtà è un tentativo buono, secondo me. Cioè, per carità, sono anche deluso che mancano tante cose, eccetera, però era per spostare gli sforzi su togliere bug. L'unico problema è che poi bug non li hanno tolti tutti, cioè non quelli più, insomma, stronzi non hanno tolti, quindi È quello che io spero per l'Infinite, cioè risolvere questo problema del non riuscire a ad avere abbastanza tempo per Halo Infinite. Secondo me la scelta, hanno fatto la scelta giusta, cioè hanno scelto delle meccaniche che sono abbastanza isolate. La coop un po' di meno, ma capisco che sia complicata in un gioco del genere. Ma la fucina la vedo molto come qualcosa che, anzi, ritardarla è positiva. Adesso magari ne parliamo più in dettaglio, però proprio della fucina. Però mi sa Marco voleva dire qualcosa al riguardo. E poi c'è anche una domanda dalla chat, quando volete. Niente, l'ho letta anch'io, è una domanda molto interessante. Giusto, andando con ordine, tutto quello che ha detto Jacopo mi ha fatto venire in mente tante cose. La prima, Hades, sarebbe bello parlare di Hades perché in realtà è stato uno dei videogiochi con lo sviluppo più atipico degli ultimi tempi. Perché vero. Supergiant ha fatto una cosa assurda che nel mio piccolo personale io approvo assolutamente, secondo me sono stati dei geni e si è visto poi il successo che ha avuto il gioco. Hanno usato un metodo di sviluppo veramente innovativo, praticamente hanno sviluppato il gioco apertamente, piegando anche tutto il pubblico possibile. E è stato molto interessante anche, come dire, per altre case magari studiarlo come esempio. Sì, sì, sì. Ma questo, come dicevo, è un discorso tutto a parte. Quello che volevo dire prima era appunto, parlando di impiegati, perché erano stati accennati, una cosa anche che forse, soprattutto noi in Europa, da queste parti del mondo, non abbiamo molta idea, e che comunque io ci tengo sempre un po' a far notare, perché sarà la mia parte di sinistra che parla, però... È un comunista di merda, Marco? Mi dissocio. Tutti quelli che noi chiamiamo come sviluppatori, tipicamente, tutte quelle figure che ci vengono in mente pensando a uno studio di sviluppo, come programmatori, grafici, la maggior parte di loro, in America soprattutto, lavora con delle condizioni poi veramente imbarazzanti se si confronta. Qui apri un portone, cioè. Però quindi, il punto è anche quello, nel senso, magari uno non ci pensa a queste cose, però è un fattore comunque da considerare, perché sì. Puoi immaginare lo stress anche che certe persone possono essere sottoposte a farli lavorare quasi letteralmente come schiavi, parlando di crunch e altre cose che non... Cioè, principalmente crunch, no? Come quella cosa che non vuole essere nominata. E poi dopo, il giorno dopo, finito, se vedi che il videogioco non ha avuto esattamente la score che ti aspettavi, viene ridotta la busta paga e cose del genere, non l'invidio di certo, mettiamola così. Poi, per rispondere assolutamente alla interessante... Ah sì, qual era la domanda, Edo? Allora, la domanda, se volete, ve la leggo. Intanto la chat è effettivamente, Marco, ti sento un pochino basso, sì, se puoi avvicinarti un minimo. Tendo ad allontanarmi, non so perché. Allora, adesso ve la leggo. Paura del contatto, sarà quello. Allora, vabbè, riguardo al discorso che facevi tu prima, Jacopo. È per questi motivi che Santa Monica ha dichiarato che un capitolo successivo al prossimo God of War, Ragnarok, probabilmente non ci sarà? La casa di sviluppo ha letteralmente detto che sarebbe troppo impegnativo, ma in che senso? No, non è questo il motivo. Cioè, quello che dicevano loro, secondo me, è che vogliono chiudere la saga nordica per concentrarsi su altre saghe, su altri contesti, per un discorso più di trama. Cioè, semplicemente hanno detto, abbiamo raggiunto, scrivendo la trama di Ragnarok, una conclusione. Il director, che non è Cory Barlog, ma è un altro, è d'accordo con Cory Barlog, che è quello del primo, nel dire che, diciamo, la trama è questa. C'è un chiaro obiettivo, perché ha giocato il primo, c'è un chiaro tema, ci sono delle... Come posso dire senza spoilerare? Ci sono delle domande a cui dare risposta, mettiamola così, ancora, specialmente riguardo un nome, e dei personaggi che erano stati introdotti nel primo, ma appunto andavano un po' esplorati o risolti. Per me è questo che intendevano, perché da un punto di vista di complessità in realtà non è più così complesso. Cioè, per carità, non sto dicendo che fare God of War Ragnarok sia facile, però rispetto al primo capitolo c'è molta più stata battuta, sicuramente. Dimmi, Marco. No, dicevo appunto, secondo quell'elenco che avevamo fatto prima, loro sono nella parte facile, no, dello sviluppo AAA. Non c'hanno il multiplayer, non c'hanno funzionalità online, cos'altro era? Come dire, hanno già battuto parecchia strada perché non stanno reinventando cose nuove, non stanno... hanno un engine. Ce l'hanno già praticamente quasi tutto, quindi sono assolutamente d'accordo quando dici è più una scelta di storia vera e propria. Cioè, vogliono finire la storia in questo modo, e ci sta benissimo, perché alla fine non è nemmeno open world, è più un gioco circa lineare, più o meno. E quindi, come dire, tra le cose complesse è la più facile, diciamo, la situazione più facile in cui ci si può trovare in questo caso. No, ci sono delle cose per cui, cioè, non è facile da realizzare, nel senso che ha delle complessità tutte sue, God of War, per carità. Ma intendevo appunto nell'enorme sfera del complesso, questa si può mettere nella parte relativamente più semplice rispetto, per esempio, anche vedi Halo Infinite o cose del genere. Era giusto per dire che sono d'accordo nel dire che non ci sono cose tecniche o problemi di sviluppo, perché alla fine il primo gioco l'hanno fatto, è venuto da Dio letteralmente. Il secondo gioco sembra che siano già sulla buona strada. Il terzo non penso avrebbero problemi tecnici per farlo. Penso sia una scelta di... Spero di no, penso di no. Dai, boss, torno su Xbox, cioè, c'è Halo. dovrebbe bastare. Dai, c'è Psychonauts, c'è Ori. Vai, Marco. Dall'altro dicevo appunto, bellissima questa cosa, perché stavo appunto pensando, prima Edo ha detto, forse faccio una domanda stupida e ha chiesto delle linee di codice, ma sarei estremamente curioso di vedere se la chat ha domande, tra virgolette, stupide, che magari uno che è un po' meno esperto del settore può immaginare funzionano le cose, e che noi magari siamo qui appunto per dare alcuni chiarimenti, quindi... Prego, scrivete in chat, accorrete numerosi. Fate tutte le domande stupide che volete, tanto tranquillo. Una cosa che non ha God of War, che è complessa da realizzare, è un editor di mappe. E qui arriviamo a parlare di Dafucina. Esatto, infatti volevo arrivare lì anch'io. Vai, vedo allora. Innanzitutto, no, aspetta. Sì, vai. Fucina o Fucina? Perché io... Chi può dirlo? Forge. Sergente Forge. Okay, mi sento una teenager che deve scegliere da 2 giga, tipo Twilight. Ma è facile, in Twilight la scelta è non scegliere, andarsene. Tra quei due... Esatto, o perché scegliere, boss? Esatto, entrambi. Easy. No, comunque dai, cioè, Fucina, chiameremo Forge per comodità, diciamo, della lingua italiana, quindi usiamo l'inglese. È stata comunque un'idea, sempre tornando al discorso dei giochi AAA, super innovativa ai tempi di Halo. Come era, spero che torni, ma sembrerebbe che dovrebbe tornare anche quella, la modalità cinema. Sì, quella è confermata. Cioè, la modalità Forge comunque, diciamo, sia a livello... Cioè, mentre magari a livello di codice, e ne parlerete meglio voi perché sicuramente ne sapete di più voi, comunque è un'idea anche, secondo me, geniale per fare community. Cioè, all'epoca magari un po' meno perché era, diciamo, logisticamente molto più complicato, perché la connessione era quella che era... No, però non anche c'erano all'epoca... in generale. Sì, comunque all'epoca già veniva usata molto. Cioè, e comunque la condivisione di mappe, eccetera, c'era molto. Ma se ci si pensa adesso in Forge, cioè tu letteralmente puoi fare mappe, invitare chi vuoi, condividere le tue mappe online, far giocare n.000 altri utenti con la mappa realizzata da te, con la modalità di gioco realizzata da te. Cioè, se uno ci va a pensare adesso sembra scontato, ma se si ripensa all'epoca... No, ma anche adesso in realtà. Cioè, anche tuttora in realtà, esatto, cioè, quali sono i giochi che hanno delle feature del genere? Voleva Far Cry, ma l'ha tolta, giustamente. La prima versione ufficiale di quello che si può definire un supporto alle mod, praticamente, perché più o meno, sì, il mondo delle mod esisteva da tempo in me, ma c'era cioè quando probabilmente esistevano i videogiochi, sì, sì. Però quello può essere uno dei primi esempi in cui la casa non solo portava, ma incentivava lo sviluppo di, esatto, di contenuto da parte dei giocatori, quindi... Ora io, come ho già raccontato più volte, la storia di Halo non l'ho vissuta molto, ma non faccio fatica a immaginare il successo che possa aver avuto, perché quanti anni ancora prima dell'uscita di Minecraft? Quindi... No, c'erano mappe su Reach che erano una cosa, no. Anche Halo 5, cioè, le mappe assurde, la forza di Halo 5 è una cosa... Io non l'ho vissuta da creatore, ma ci sono delle cose fatte lì dentro che... Gaby. Mentre adesso che sei più un creatore di videogiochi, Jacopo, aiutami, come si realizzerebbe una cosa del genere? Che stavo giusto appunto pensando. Esatto, quanto, cioè, diciamo, oltre al fatto, boh, magari scelte, non lo so, possiamo dire artistiche, boh, quello che ci pare, ma diciamo, penso che fondamentalmente ci sia anche un motivo tecnico o comunque di tempi, di soldi, eccetera, perché molti giochi non riescono comunque ad avere modalità di questo, certo, tipo. Cioè, quanto è complicato realizzare una modalità forge, una modalità, diciamo, in cui un giocatore può costruire sia la modalità, che forse magari così a secco mi viene da pensare, magari è un po' più facile, o modalità forge in cui proprio costruisci l'environment in cui poi andrai a giocare, cioè l'ambientazione di gioco. Come prima cosa, come dire, come primo commento, mettendomi nei panni di chi non se ne intende, mi verrebbe da dire, ma se hanno creato tutti i tool per fare il gioco loro, per fare loro le mappe, basta rendere disponibili quei tool alla gente. Però poi mi viene subito a pensare, non puoi dare gli stessi tool, uno perché i giocatori avrebbero troppo potere sulla mappa, e due, che se fossero completamente liberi, di sicuro finirebbero per creare qualcosa magari anche che rotto, che magari dal punto di vista di uno, come dire, per incentivare il gioco, sono comunque tool complessi, e quindi proprio renderli così disponibili senza... Ma c'è proprio un discorso di proprietà, cioè non puoi rendere esatto, dei tool proprietari disponibili al pubblico, non puoi renderlo disponibile agli hacker... C'ho tantissimi, tantissimi problemi nel rendere disponibile i tool di sviluppo al pubblico. Ed è una cosa che sono contento qualcuno abbia fatto, tipo Valve, o anche, vabbè, gente, anche altri tool tipo Creation Engine. Cioè, ci sono a persone che hanno diffuso questi tool, o una versione di questi tool almeno, ma molti engine proprietari non possono farlo. Perché appunto, il fatto è che quando tu crei una facciata di un palazzo che non devi mai riprendere da dietro in un film, il dietro non c'è un cazzo, è tipo legno, nudo, no? Quando tu crei un asset, qualcosa in un videogioco, che è fatto per essere visto solo da un lato, dietro non c'è letteralmente nulla, come fosse di legno, cioè nel senso è letteralmente trasparente. Molte delle cose che tu vedi in un gioco sono fatte per essere ottimizzate, e sono fatte per essere usate dagli sviluppatori, per essere piazzate dagli sviluppatori. Quindi sono fatte tipo per, ok, che ne so, devo creare una mappa di Halo 3. Perché non si poteva cambiare il terreno solo 3? Perché potevi solo... No. Benvenuti a tutti ragazzi. Scusa, Iago. Ciao. Era perché in Halo 3... sarebbe stato complicato da un punto di vista di performance del gioco e da un punto di vista di usabilità modificare il terreno, ovvero, mi spiego, cioè di solito quello che noi vediamo come terreno, cioè tu vedi, che so, una montagna, tipo mi viene in mente terreno elevato, no? High ground che Edoardo odia, Mamma mia. È quella... Molti pezzi di quella mappa sono pezzi grossi, unici, dietro non c'è niente, ottimizzati e tutto, cioè c'è un sacco di lavoro per creare il terreno. Poi ovviamente magari le armi, le granate, i veicoli, così sono oggetti della sandbox di Halo che tu puoi spostare, piazzare dove ti pare, con editor, eccetera. Ma già solamente far vedere nella forgia i punti di spawn orientati delle armi... Quello è un hack. Scordatelo che nell'editor c'è una cosa del genere di base. Cioè tu, come diciamo programmatore, come designer, come programmatore, come ti pare, il tool che usi è fatto per essere usato su un computer. Tu hai la tastiera, hai un'interfaccia e dei comandi che puoi usare fatti per il computer. Che ne so, l'esempio classico, tu clicchi su un oggetto per spostarlo, non è che sposti la telecamera come se tu fossi un Guilty Spark, no? Come sulla foto, no? Tu sei una lampadina e sposti e ti sposti e quindi l'oggetto viene con te. No, tu devi spostare l'oggetto con dei comandi, delle snapping, degli assi, XYZ, cioè hai l'accesso diretto alle variabili della posizione di quel gioco nel mondo, cioè è potenzialmente molto potente, ma come diceva Marco, difficile da utilizzare, specialmente con un controller. Quindi il primo passo è è capire che cosa puoi dare ai giocatori come potere di editing e come darglielo, cioè come farlo entrare in un joystick. È impossibile, cioè è una cosa. Quindi, cioè, già per iniziare abbiamo detto, hai questi tool che hai passato 5 anni a realizzare, adesso devi ammazzare un po', li devi tagliare le parti di troppo, devi fare in modo che siano usabili da chi usa controller, che siano intuitivi, anche perché la maggior parte degli utenti non avrà il background di chi magari è un esperto editor di mappe o un... Sì, comunque devi rendere disponibili a gente che letteralmente non sa usarli, cioè non ha idea di come si usano, non ha le mani per usarli, cioè nel senso non... Ciao Ale, benvenuti a tutti ragazzi. Benvenuti a chiunque sia arrivato. E poi dicevo, oltre a questo, che cos'hai? Dopo che hai creato questi tool, che hai reso disponibili agli utenti, gli utenti possono creare le loro mappe, ma poi dopo ti serve anche tutto il sistema dietro, la parte server, dove c'è il sistema di salvataggio, tra virgolette, in cloud delle mappe, che poi potranno essere condivise con altri utenti, e quello è tutto altro codice, dovrai poi dietro per citare una cosa che è da un po' che forse non citavamo, mi viene subito da pensare, bisognerà fare attenzione Kojima. Anche a cose tipo il TTP, giusto, il time to penis, cose del genere, perché quando si mettono in mano tool di creazione agli utenti, di sicuro quasi letteralmente qualche cazzo compare nelle cose, quindi c'è tutto quel reparto che dovrà anche un po' moderare tutta la creazione delle mappe, la loro distribuzione. Vabbè, quello è prima di subito, cioè nel senso non c'è, cioè il delta T è nullo. Cioè... Esattamente. Assicurarsi che non ci siano cose offensive o quasi che vadano contro qualsiasi termine di termine di servizio, eccetera. E quello è un altro reparto che si aggiunge al mucchione. E quindi abbiamo già tre belle fettone da fronte, tre bei problemi. E complimenti a loro per, come dire, aver detto solo 6 mesi per rilasciarlo. Perché non sono 6 mesi, assolutamente. Probabilmente vuol dire che ci hanno già iniziato a lavorare. Non è che non ci hanno minimamente lavorato fino all'uscita del gioco e poi... il gioco è uscito, adesso iniziamo a fare... portate Bill nella sala, esatto. del poi tra l'altro lasciatelo lavorare una volta, adesso non so come funziona solo Infinite, ma una volta tu in alcuni engine dovevi cuocere la mappa, dovevi fare letteralmente il bake, si chiama, è bello in italiano, il bake vuol dire che tu, diciamo, facciamo un esempio perché in realtà vale per tante cose, ma il bake di solito si faceva bello pesante per la luce. Mi ricordo in Unreal Engine 3, se tu volevi giocare una mappa, per giocarla con la luce vera, tra virgolette, quella finale, dovevi cuocere la mappa, doveva praticamente sparare fotoni in giro e salvarsi dei dati su dove andavano a finire i fotoni, essenzialmente. Quindi tu avevi una specie di mappa, diciamo, di illuminazione della mappa, come posso dire, ti salvavi delle informazioni su questi fotoni che andavano in giro, e quindi la luce era più naturale, era più... Poi ovviamente potevi modificarla un pochino. Se la luce dinamica, come dire, è iniziata ad apparire solo ultimamente. Esatto. Esatto, una compilazione prima di rendere il codice, esatto. La versione della luce che veniva appunto cucinata offline prima di far partire la mappa era molto più complessa, molto più realistica, ed è quella simile, più o meno, in realtà no, però simile a quella che si fa ora con il ray tracing su queste grafiche, no? Quindi con gli anni questo cucinare... Scusate, ho letto Andrea in chat. Con gli anni questa cosa è venuta meno perché gli engine sono evoluti per non doverla fare più, quindi per farla in maniera veloce a runtime, però è una cosa che devi considerare, cioè non tutti gli engine riescono a farti giocare una mappa subito dopo averla fatta. Devi cucinarla. Non avevo la minima idea. Devi metterla in forno prima di mangiarla, diciamo. Che bel modo di dire, mi piace. No, ma è così, cioè non è una similitudine per una volta, visto che se no Luca si offende se faccio troppe similitudini. E quindi niente, questo è un altro livello di complessità oltre al punto all'usabilità, al time to penis, a tutte quelle altre cose che abbiamo detto. C'è, come posso dire, un vantaggio, che è quello che ha detto Marco, ovvero che tu, facendo questo tool, rilasciandolo, stai iniettando più vita nel tuo gioco. Cioè, sì. Quello che dicevo prima, no, è un vantaggio, secondo me, ritardarlo, perché magari all'inizio Halo Infinite può camminare da solo. Diciamo, i primi mesi riesce magari a, non lo so, sto speculando qui, però magari può riuscire a basarsi solo sulle mappe e sulle variazioni delle sue mappe, quelle già fatte. Quindi abbiamo già visto come cambia una mappa uguale semplicemente cambiando quali armi spawnano, no? Nella pre-flight. Esatto, sì. Nella tech preview. E quindi... O comunque io ricordo su Halo 3, per esempio, faccio esempio Halo 3 perché è quello che mi ricordo di più, cioè anche solo la mappa Foundry, solo tramite le mappe realizzate, cioè delle mappe poi realizzate dalla community, in realtà sono diventate delle mappe utilizzate nei tornei. Sì, esatto, no, però dico quindi anche prima, cioè dico proprio prima, tipo cambiando la modalità del gioco, cioè solo la modalità. Sì, esatto. Tipo, cioè... Prego, finisci. No, vai. Ma dicevo, hai tirato fuori un discorso molto interessante anche, appunto, che non ci avevo ben pensato nemmeno io, però è verissimo che il gioco, quando esce, forse anche quello ha un po' meno bisogno di tutte queste cose in più per, tra virgolette, sopravvivere o comunque andare avanti, perché anche pensavo anche alla campagna multigiocatore, chissà quanta gente prima la giocherà in single player e poi quando la rilasceranno finalmente in multiplayer ci faranno un secondo giro, no? Insieme a qualcun altro, magari. E questo è anche un trend che si sta vedendo di più ultimamente e del quale io sono assolutamente favorevole, ovvero che, ecco, diciamo, i giochi vengono rilasciati un po' più a momenti, però non è alla Cyberpunk, sempre per fare il classico esempio, non è che il gioco esce rotto e poi lo aggiustano. Grazie, Checco. Scusate. Piacere, Checco. Dicevo, non è che il gioco esce rotto e poi lo aggiustano nei mesi successivi. Il gioco esce completo, ma nella sua forma più basilare. Sea of Thieves. No! Sì, verissimo. Sea of Thieves, eccolo. vogliamo l'esempio quasi... Che dire, caso. Che più ci azzecca, forse anche un po' troppo all'estremo, forse va un po' effettivamente a contraddire quello che ho appena detto, ma l'esempio che mi viene sempre in mente adesso è No Man's Sky. Sì, no, giusto. Sì, sì. Come dire, è riuscita a cambiare tutte le... la media delle sue review su Steam da quanto poi gli autori si siano... sono impegnati per creare contenuto e o materiale tutto offerto gratuitamente a chi ha comprato il gioco, e quello, cioè, è partito male, ma neanche per, diciamo, completamente colpa loro, un po' fatto la fine di Cyberpunk, nel senso hype e cose del genere, e poi si sono tirati su diventando dei colossi, veramente, cioè sono stati un esempio da imitare, assolutamente. E devo ammettere che io personalmente non mi dispiace questa idea di rilascio di videogiochi anche un po' più diluita nel tempo, ma che dimostra comunque una certa cura, un certo affetto anche per il prodotto, perché se sei disposto a poi continuare il suo sviluppo, cercare sempre di migliorarlo negli anni successivi, nei mesi barra anni successivi, allora vuol dire che un po' di cuore ce l'hai messo dentro, per fare un po' i sentimentali questa sera. No, un attimo, devo premere un pulsante. Oh no, hai ragione, effettivamente ho sete, però non ho una birra, mi dispiace. Niente, no. Era giusto però, devi bere la birra. Che ecco, devi fare condividi se vuoi far partire con il sub. Comunque no, cioè, ripensando a Sea of Thieves, è l'esempio perfetto di quello che diciamo prima, ovvero di come risolvere il problema dello sviluppare un engine, una tecnologia, vabbè, qui più la tecnologia che l'engine, perché l'engine mi pare sia Real Engine 4, però tutta la tecnologia che c'è dietro delle onde, del multiplayer, della fisica, cioè ci sono tante tecnologie, tante basi, da sviluppare, e è stata una scelta che adesso magari non sembra, ma coraggiosa all'epoca, di farlo uscire nudo, cioè di farlo uscire essenzialmente senza nulla, perché era quello che dicevano tutti al lancio, no? Prese delle recensioni, delle stangate assurde, rischiando parecchio effettivamente di morire e basta, sì, e prendendo la scelta coraggiosa di continuare a svilupparlo. Perché anche noi, cioè, mi ricordo, noi ne parlavamo, ci volevamo giocare al lancio, mi ricordo, ne parlavo con Salla, ma era deserto. C'era niente. Era comunque già quello che è anche adesso, ovvero un gioco molto rilassante, per carità, cioè, potenzialmente molto chill, nonostante, vabbè, pieno di PvP, eccetera, però è adesso un gioco... un giocone, cioè nel senso, giocato da tantissime persone, un sacco di contenuti, di cose da fare in maniera diversa, ci sono video di gente che fa cose che sembra, cioè, Battlefield momenti. Intanto cioè, grazie Checco per la sub. Ho visto uno spararsi con il suo cannone da solo su un'altra nave, dargli fuoco, gettare l'ancora e rispararsi sulla sua nave e andare via. In che senso? John Wick. Però è il modo corretto di affrontare, secondo me, il problema. E quindi questo. Cioè, è un po' triste, sotto un certo punto di vista, non avere più il gioco. Non avere più il gioco che esce e basta, è finito. Ma d'altra parte ti tiene l'interesse vivo, l'interesse attivo, e tu puoi, diciamo, scegliere di entrare nel gioco, di cominciare a giocarci nel momento in cui i contenuti sono al livello che vuoi, essenzialmente, se quella è l'aspettativa, no? Ovviamente se il gioco poi non ha futuro, nel senso non ha aspettative di continuare a essere sviluppato, è un altro passo. Ah, certo, dipende assolutamente anche dal tipo di gioco, perché se fai un gioco magari incentrato solo sulla storia, per esempio The Last of Us, non penso avrebbe mai potuto funzionare. Cosa ci aggiungi in The Last of Us? No, esatto. Certo. Cosa che faceva assolutamente notare anche in chat, di un altro punto di vista, Luca Odis che mi sconfondo, esatto. Sempre se è il vero Luca Odis o se è qualche... Sì, Luca Odis è il vero. I am Luca Odis e Salla, mentre Luca Odis... mi confondo sempre. Come Luca faceva notare, dice, piace anche a me, però mi chiedo quanto questa scelta impatti sui costi di tenere più persone a lavorarci post uscita del gioco. Questo effettivamente è una... è un buon punto di vista, cioè... Però... Come fai a saperlo? Boh, penso che lo scopri, non lo so. Cioè fai magari delle stime e poi... Dopo che un gioco è uscito hai un'idea molto più chiara di quanto costa fare le cose in termini di tempo e di soldi. Quindi è molto più facile stimare di chi hai bisogno proprio come persone e per quanto per fare certe cose. Per cui sai che tipo di contenuti potrai portare dopo, quanto ci metterai in termini di costi, non diciamo costi, ma proprio in termini di ore lavorative, come posso dire, di ore uomo. Di manpower, praticamente. Come? Di manpower. Di... Manpower, esatto, sì, sì. Quindi cioè, è un fatto di rischio, risk reward, cioè tu fai... Guardi quanto ti serve per continuare a svilupparlo, così guardi quanto hai guadagnato al lancio, guardi quali sono le prospettive future, ti fai due conti che e fai una scelta. Il reward in questo caso è che con l'aggiunta del contenuto le vendite si prolungheranno anche nel tempo, quando la gente appunto vede che magari dice: ah, ho aggiunto tutta sta roba, magari lo provo anch'io e lo compra. O soprattutto, come è stato anche appunto per Sea of Thieves, non tutto il contenuto che poi viene rilasciato deve essere per forza gratuito, ci possono essere assolutamente contenuti pagati a un prezzo giusto. Perché non è andato il coso del follow. Comunque grazie Pelato per il follow. Ora cerco di capire perché non è andato il tutto. E quindi diciamo che i DLC a pagamento esistono ancora, anche se sono visti un po' forse di cattivo occhio adesso, e non capisco il perché alcuni valgono tutti i soldi che chiedono, quindi questo. No, beh, io però più dei cosmetici. Diciamo che la questione di Sea of Thieves è complicata, perché ha anche, diciamo, l'aggiunta di complessità del Game Pass, perché il Game Pass ha un po' reso obsoleto anche il discorso delle copie vendute, no? Perché tu un gioco adatto per il Game Pass come Sea of Thieves ti invoglia a tenerlo come abbonamento, no? A rinnovarlo. Sì, assolutamente. E a non comprare mai potenzialmente Sea of Thieves, nel senso, io non ho Sea of Thieves, ma ce l'ho installato e gioco ogni tanto, così. Vero, esatto. Stanno cambiando anche le cose. Ed è... Anche magari con questo nuovo stile degli abbonamenti non cambino anche di nuovo i metodi di sviluppo. Questo punto, che i giochi vengono più come una serie creata. E comunque la chat, devo dire che è abbastanza d'accordo sulla difficoltà del creare giochi. È difficile, basta raga, sto progettando un gioco da 3 anni. Interessante. Pelato Pro President vede che però è contrario al Game Pass, a lui non piace. Per Jacopo, se no, per il Game Pass posso farti un esempio. Vai, spara. Prego, ci faccia questo esempio di no, di Game Pass. GTA... Hai scelto gioco più sbagliato. Cioè... L'hanno dato al Game Pass 2 volte, vabbè, però GTA, cioè secondo me è un discorso un po' GTA diverso. Cioè... Facciamo l'esempio di un film. Avengers Endgame. Cioè... GTA è un mostro a parte, un mondo a parte. Sì, la Rockstar penso sia una roba veramente a parte. Stampa i soldi quel gioco, porca troia. Un po' come dire, passati 10 anni, continuano a rilasciare ancora Skyrim, per dire, è un'altra cosa. No, certo, quello che dici tu è giusto, cioè il Game Pass sicuramente aumenta le vendite, in realtà, cioè è stato dimostrato che non è un servizio che diminuisce le vendite, ma le aumenta, perché aumenta, diciamo, ti invoglia a provare dei giochi, ti invoglia a fare appunto word of mouth, cioè a diffondere, ah, oh, guarda, ho provato questo gioco, figo, no, per me è stato così per Outer Wilds, io l'ho provato lì, poi l'ho comprato. Tantissima gente, magari ha amici che hanno Sea of Thieves su Game Pass, ma loro l'hanno comprato. GTA sicuramente è la stessa cosa che dici tu, però sto dicendo, non è più necessario che tu compri Sea of Thieves perché tu stia contribuendo al budget del mantenimento di Sea of Thieves. Questo sto dicendo. Ovviamente non è così per tutti, perché Psychonauts 2 è su Game Pass, ma non è che diventerà un gioco live, non è un gioco live, faranno altri 2-3 patch e poi basta. Però è, come posso dire, è un nuovo metodo di monetizzazione, essenzialmente, sì, per uno studio, no? Per un'altra nuova variabile di cui va tenuto conto. Sì, sì, esatto. Sì. Allo si comprerà. Vabbè, poi lì secondo me entra un po' anche il fatto collezionismo, tra virgolette, cioè nel senso magari qualcuno ha piacere ad avere la copia fisica, punto e basta, perché esatto, oggettivamente è bello averla. Esatto. Magari a qualcuno non interessa, dice vabbè, boh, sti cazzi, magari intanto lo prendo il Game Pass, cioè ho il Game Pass e ci gioco, piano piano, poi con calma prenderò anche la copia fisica, lo comprerò in ogni caso. Poi, tralasciando il fatto che Halo comunque almeno multiplayer sarà free to play, che è una cosa fuori di testa comunque, quindi vabbè. Perché poi se uno si ferma un attimo a pensare anche... Sì, sì, è vero. No, stavo dicendo... Pensare un attimo al discorso da cui è partito tutto, no? Che dicevamo di Halo, che posticipava la Forge e la campagna multiplayer e così. Tuttavia, però, se uno, come dicevo, si ferma un attimo a pensare, come se ci fossimo preoccupati che comunque le vendite di Halo sarebbero andate male, con tutto il seguito, con tutta la storia che c'è dietro, ci sono anche, come dire, IP che si possono più permettere, cioè, di fare certe cose. Sicuro un gioco... Sì, Halo. Però vabbè, diciamo che Halo è un po', cioè non un discorso a parte, però ha il problema che ha avuto un picco e poi questo picco è sceso, cioè nel senso l'indice di gradimento comunque è arrivato ad un picco con probabilmente, penso, Halo 2. Poi comunque si è mantenuto Halo molto 3, alto Halo con 3. Esatto, magari con Halo 3, con Halo Reach. Per poi, diciamo, scemare abbastanza. Quindi secondo me in questo caso il fatto, cioè la preoccupazione ci sta. Sì, no? Sì. Ora, appunto, ripeto, guardando è quello che in questo caso è proprio è quello che ti fa esatto, dire... Halo 3, esatto, Halo 3 infatti fece la storia del competitive, ma assolutamente sì, non c'è proprio niente da dire, però diciamo, è un mondo diverso. Sì, sì, è un mondo diverso. All'epoca era sicuramente un mondo diverso. Qualcuno nel Telegram di Halo Infinite Italia scriveva giustamente la complessità dello sviluppare appunto un gioco come Halo Infinite nel 2021 è completamente diversa dallo sviluppare Halo Reach nel 2010. Cioè, tutto quello che noi magari... appunto diamo per scontato perché era in capitoli precedenti di Halo e quindi abbiamo come aspettative per Halo Infinite, non sono più facili come una volta da realizzare, e questo è uno svantaggio. Tu dicevi prima Halo ha il vantaggio di essere una IP grandissima, popolarissima, ma in realtà è anche uno svantaggio perché abbiamo visto appunto che appena dici una cosa che va contro le aspettative, cioè già finché la gente non ha toccato con mano. Già il fatto che si potesse fare la corsa solo Infinite, cioè ha spaccato a metà la fanbase, cioè come sempre. Finché poi non hanno scoperto che era una, cioè, 8% in più di velocità, una cazzata, eccetera. Molti l'hanno accettato poi come cosa, ma qualsiasi cosa di feature mancante, di decisione di design, di sandbox, di UI, avendo dei paragoni così grossi. Per nostalgia o per appunto impatto anche quello è videoludico importante, effettivo, infatti, sì. Cioè, dai, è vero, sì. Sì, vabbè, che poi torniamo a un altro discorso che abbiamo fatto recentemente, ovvero che prima di giudicare un gioco, magari è meglio anche giocarlo e non basarsi su quello che si vede, su quello che si vede in una technical preview, che per carità serve a dare feedback, però stiamo parlando comunque di build vecchie. che non sono paragonabili a quelle, a quella no, di quando uscirà il gioco, cioè nel senso, come è difficile sviluppare ad un amico, ah, lo fa schifo, crealo tu. Sì, esatto, cioè nel senso no, sì, cioè riassume un po' il pensiero di questa live, diciamo, questa che, esatto, allora che fallo appena tu. Detto, quindi cioè, no, se ti fa schifo allora fallo tu, ok. Io penso, buona che, fortuna, come dire, la filosofia, almeno quella che cerco di dare io del podcast, è sempre, no? Non semplicemente imporre il nostro pensiero, ma come dicevo, dare un po' di informazione. Noi abbiamo parlato di come è difficile fare un videogioco, cose che molta gente non sapeva. E poi traete da voi le vostre conclusioni, però a questo punto, dopo tutto quello che abbiamo detto, si può giustificare che Halo non abbia la campagna multiplayer e la Forge all'uscita, magari, forse un po' più di prima, solo questo. Ma io, cioè, parlando da culo, fan... c'è la Forge! Ah! Esatto, è finito. Cioè, che poi parlando da fan, a me viene da dire chi se ne frega, cioè nel senso, io voglio giocare al gioco, se poi manca qualcosa e so già che queste feature verranno messe, ma chi se ne frega, cioè io voglio giocare al gioco. Non lo so, boh. Sarà che nessuno di noi, nessuno dei qui presenti è veramente fanatico di nulla nel mondo. No, esatto, i veri fanatici hanno un'idea ben precisa di quello che vogliono. Forse è vero questo. E quindi un gioco un poco di meno, già non va bene. È un gioco poi talmente grosso che per forza. Poi esatto, sono d'accordo con quello che ha detto Pelato. Spesso purtroppo è la falsa informazione che è sbagliata. Esempio, un gioco molto bello, Biomutant, è stato schifato perché Tizio Streamer ha detto che era una cacata. E questa sarà il tema della prossima puntata. Esatto, infatti. La prossima puntata sarà, però parlerà, sì, di questo. Dobbiamo tenerlo presente perché è un'altra di quelle, come dire, di quelle robe grosse. È un mondo a parte, se no non è vero. Biomutant è sì, tanta roba. No, vabbè, ne parleremo nella prossima puntata di questo, esatto, di beh, recensioni, streamer, eccetera. Però, per restare sull'argomento, diciamo, spero che sia passato il messaggio che fare videogiochi è difficile, fare la Forgia è difficile, che conviene a tutti. Ho una macchina da corsa che mi ha scopato davanti casa. Conviene a tutti tenere le aspettative basse e giudicare dopo aver provato con mano, o almeno giudicare dopo che sia uscito il prodotto, perché si evitano problemi da entrambe le parti, nel senso, io sono contento di te che 3-4 te sia così trasparente, ma diciamo che è un'arma a doppio taglio, no? Nel senso, può creare questi problemi. Esatto. E lo puoi mannare Luca dalla chat. Sì, ma penso che in questo caso Marco è la descrizione accurata. Si riferisse all'altro, Marco. No, Marco è questo, Marco, che dice che Fortnite fa schifo. Ah, sì? No, sì, sì. È uno snob di merda. Ah, tu pensa, era così tanto da Marco che pensavo fosse l'altro Marco. Ma invece Marco è un trademark, devi dire queste cose. Ci sta. Sono... Ok. C'ho la puzza sotto il naso quando si parla di sparatutto, mi spiace. Non mi ricordo cosa volevo dire. Sì, scusa. Tanto no. era inutile sti cazzi. Già. Scusa, Iago, ti ho fatto perdere il treno di pensiero. Volevo... No, ma tanto, cioè, se non me lo ricordo vuol dire che era una sbercazzo. Perfetto. Beh, lo potranno riascoltare i nostri ascoltatori, tutti quei presenti, esatto, nel nostro podcast, ricordiamo. E trovare un senso alla tua supercazzo. Esatto. Quindi mi sembra di capire che, non so, ho avuto l'impressione che ci avvicinassimo alla conclusione o sia ancora qualcosa di più. Sì, dai, ci può stare, secondo me. Comunque abbiamo iniziato alle 9:30 alla fine, sì, con un po' di ritardo mio. Abbiamo detto stronzate per un'ora e tre quarti buona, quindi... Ce l'ho scritto proprio qua, siamo in live da 1:49. Wow, incredibile. Allora, giusto il tempo per fare 10 minuti del nostro momento preferito, Marco. Sbaglio? Vai. So che è atteso da molti in chat. Potremmo farlo mettere a Edo in... Get you waiting, huh? No. Okay. Troppo tardi. Credo si sia sentito forte chiaro. Metti il trailer di Metal Gear, giusto così. Dai. Metti, vai, esatto, vai, metti Metal Gear Solid 5 perché tanto si parla di quello. Che vuoi parlare? Beh, Ground Zero è un bel gioco. Ma ecco, si parla di Metal Gear Solid 5 e Phantom Pain. E che dire, è un gioco che non è stato finito. La Pain è stata, no? C'è la diretta scatta del trailer, ma non del gioco. Esatto, cioè, hanno finito esatto. Il trailer. Ah, esatto, c'è l'extended cut del trailer, esatto. Gran saga, però, sì. Come dire, ribadisce gran saga, però penso che noterai che concordiamo con te se ti capiterà di ascoltare anche solo alcuni episodi del podcast, probabilmente. Uno a caso, tanto e a proposito, una per caso, effettivamente, per chi volesse, rimetto in chat. Beh, a questo punto, che altro c'è da dire? Ma grazie, allora la birra me la cucco io. Di Metal Gear e del suo sviluppo. Sabaku ormai ha detto tutto quello che c'era da dire. Abbiamo visto quello che poteva essere e che non è stato. E niente, farà sempre male, la Phantom Pain resterà sempre presente. Esatto, con un capitolo rubato che fa un prurito. È andata così, questa è stata, come dire, un esempio lampante di quando studio e autore non hanno proprio gli stessi interessi. Già una cosa difficile, resa ancora più difficile di quando queste due entità si mettono i bastoni dalla ruota vicenda, e poi magari ingaggiare anche tizio, come si chiama, per spendere la maggior parte del budget per la voce di Snake, poteva essere riconsiderata, poteva essere una cosa che si poteva riconsiderare. Ma guarda, il budget per Kiefer Sutherland penso fosse tipo un milionesimo di quello che hanno speso per il gioco, quindi engine, tipo anche. Madonna. No, cioè, un'altra volta, sempre la stessa storia. Fare l'engine, fare il gioco, fare il multiplayer, fare tu, cioè è sempre la stessa storia. Lì fosse anche stato fare un engine che andasse bene a Kojima, probabilmente. Era tipo il livello ancora superiore a... Però l'engine lo hanno usato per PES. Quindi a posto, hanno recuperato tutto. Sì. Ma davvero? Sì, Pro Evolution Soccer usa il Fox Engine, mi pare, da qualche anno. Wow. Non so se lo usa ancora, però. Quante linee di codice ci saranno per il Lens Flare, come si vede da questo trailer? No, vi giuro, cioè, quando ho letto che c'era un artista dedicato ai fulmini, io li ho capito. Perché hanno deciso di chiudere il rubinetto, perché, cioè, secondo me è entrato un tizio della Konami, ha visto che c'era la targhetta con scritto artista per i fulmini e ha chiuso i fondi lì, ha detto basta, vado a fare le macchine pacinco, non rompete più i coglioni. Beh, ci sta, cioè, vabbè, penso che sarebbe stata una reazione comune, io mi immagino, diciamo. Tipo la scena in ufficio di Kojima che arrivava al mattino, ho bisogno di 7 foche monache, una carabina e 3 doppiatori per questa scena. E un palo della luce. Cioè, un parafulmini. No, cioè, la gente prende sempre le parti di Kojima perché è stato, per carità, trattato con i piedi, cioè... La storia è famosa. Gli hanno impedito di andare a ritirare il premio, tante storie, vabbè, sensazionaliste, eccetera, ma un motivo c'era, dico solo questo, cioè, come al solito, per rientrare nei costi, secondo me hanno fatto la scelta giusta, ovvero si sono concentrati nel pulire quello che c'era, perché Metal Gear Solid 5 è un gioco iper-polished, cioè mi ricordo quando uscì, è un gioco completo già di suo, quindi... Madonna, cioè, è una cosa incredibile come si incastrano i sistemi insieme. Però poi manca un terzo del gioco, alla fine. Cioè... Anche forse due. Vabbè. Dettagli. Forse, metà, non i due terzi, dai, la metà. Dai, siamo ottimisti, la metà. Mettiamola così. La metà. Siamo forse chi lo sa, magari Kojima aveva pensato gli ultimi tre capitoli in realtà erano tutti una cinematic una dietro l'altra, non c'era puro stile Kojima. In realtà gli ultimi tre capitoli duravano 10 minuti. Esatto. E quindi niente, vabbè, storia già raccontata 50 volte. In realtà sarebbe interessante due commenti sulla editor's cut di Death Stranding, perché alla fine è quello, cioè diciamo che i veri grandissimi titoli a cui ha lavorato Kojima, intesi come i tripla di cui parlavamo prima, beh, in realtà anche Metal Gear Solid 4, però quello era ancora forse, diciamo, a metà del periodo in cui i videogiochi erano ancora questi colossi più controllabili di quanto non siano adesso. Non erano ancora... Vogliamo Z la formica. Come diciamo prima, adesso sono diventate quasi inconcepibili quanto sono grandi i videogiochi. Quindi giusto per dire, commenti sulla Director's Cut per Stranding. Ma finalmente Kojima può fare un gioco senza le restrizioni di Kojima. No, vabbè, è per dire, Death Stranding è un gioco che era finito 3 mesi prima dell'uscita, che nella storia dei videogiochi non c'è più. Cioè no, dico, è andato in gold, il gioco era finito, cioè era polished, era finito, non c'erano bug incredibili. La gente lo ha recensito mesi prima, tipo 2 mesi prima, tranquilli. Già era a posto. Cioè. Già era a posto. Non è che tipo si sono sbrigati a finirlo perché hanno dovuto togliere roba. Cioè, la Director's Cut per me è Kojima che si è divertito ad aggiungere quelle cose che magari, capito, si è sognato nei fedeli Grim Tremens. Cioè, a me sembra questo, mi sembra un cazzeggio. Anche lui ha detto, non è un Director's Cut. Director's Cut me l'hanno imposto il titolo. Nel senso, non è, non comunica... Per lui poteva essere cazzeggiare allegramente, insomma. Sì, è una gold edition, diciamo, cioè è una versione, capito, potenziata, ma non è che ci sono cose che dovevano esserci e che sono state tolte, capito? Stranding è stato esempio lampante di quando, come dire, di quanto ha imparato durante Metal Gear Solid 5 a non rischiare troppo, cose, non so, la sto sparando lì. Ah, sì, ah, sono più bravo con lo scope. Sì, questo sicuramente. Probabilmente è Bravissimo. servito di sicuro a quello, nel senso, cioè, se Death Stranding è stato quello che è stato, è uscito, come dicevi tu, era finito 3 mesi prima dell'uscita, forse anche per quello che è successo con No, sicuramente. Infatti PS5. è una storia positiva, secondo me, Death Stranding per l'industria. Cioè, dovrebbero imparare da Kojima, sono un po' strano, però. No, cioè, dovrebbero imparare dai producer di Death Stranding perché hanno davvero ridotto all'osso, ridotto all'essenza e pianificato bene. Cioè, No, è un per questo gioco che detto qua, io. io sono assolutamente favorevole, se uno sembra più No, favorevole al togliere che all'aggiungere. è un gioco, cioè, che ti vuoi dire? È stato presentato, abbiamo capito subito cos'era, è rimasto quello. Cioè, abbiamo visto un trailer quando il gioco non esisteva e lo sapevamo, perché l'ha detto Kojima, e il Quindi gioco è non allo 2, rimasto. insomma. Eh? Quindi non allo 2, insomma. No, 2. L'unica cosa per la prossima volta, tagliate la frase di Princess Beach e siamo a posto. A posto. Ah, dalla chat comunque chiedono cosa ne pensiamo di Quantum Break. Domanda un po', sì, diciamo sconnessa, però, cosa dire? Non l'ho Mi mai sta. giocato, purtroppo. Io l'ho Mi giocato e mi è piaciuto. sta. Non mi piace, Conosco beh, a me anche Remedy io, non l'ho giocato. piace. Conosco molto di più Control e, se ho capito bene, è stato quasi, tra molte virgolette, un'evoluzione di Quantum Break. Sì. Diciamo che Quantum Break è lo step intermedio fra Alan Wake e Control, diciamo, Beh, la come Remedy a questo gameplay. punto non ha mai fatto troppi strafalcioni, la Remedy, No, quindi, sono bravo. assolutamente. Io ho già preordinato la remaster di Alan Wake, sicuramente farà schifo, però devo rischiare. Ma come? No, Quantum Break è un gioco che è stato un po' smerdato perché ha fatto un po' di errori dal punto di vista della narrativa, ma a me è rimasto simpatico anche per quello, diciamo. Cioè, è un po', come dire, non so bene come descriverlo. Mi ricorda un po' Fringe, un po' le puntate forse più brutte di Fringe. Oh. E, come narrativa c'è aggiunta al gioco con questi intermezzi di tipo di telefilm e così, che non c'entravano nulla giustamente perché potevi saltarli. Però era pieno di idee interessanti dal punto di vista della narrativa nel gioco, come tematiche, come personaggi. C'è un personaggio fuori di testa che tra l'altro è la stessa attrice, mi sa, che fa Jesse Fader in Control, bellissimo personaggio. E la tecnologia anche è interessantissima perché è un'evoluzione dell'engine di Alan Wake, ma molto complesso. Quindi anche lì, un'altra volta, la storia di un gioco che ha dovuto evolvere l'engine insieme a sviluppare un gioco un po' complicato, così, quindi anche lì penso siano rimasti un po' bruciati anche loro dal rapporto con la Microsoft e da come è stato ricevuto il gioco, diciamo. Un gioco un po'... Scusate, ridevo per le facce di Norman Reedus. come me lo racconti, mi viene un po' da dire forse che è stato uno di quei giochi... diciamo troppo complicati per il suo stesso bene, mettiamolo così, troppo... Sì, c'è cioè un pochino troppa roba, troppa carne al fuoco. Control ha avuto l'effetto, secondo me Control ha avuto un effetto benefico da Quantum Break, perché hanno detto abbassiamo le aspettative, annunciamo un po' più vicino alla release e concentriamoci sul gameplay, concentriamoci su... diciamo le parti più economicamente efficaci, perché Control è un Metroidvania con pochissime cutscene costose, con zero live action, diciamo, importante, a parte i filmatini, quelli lì. Ci sta. È molto più efficiente come soldi. Più economica di live action, che è il full motion capture, cioè non esatto. Il film. Il dottor, si chiama il dottor... Sta venendo... Vabbè, il dottore era... Il dottor non mi sta venendo, purtroppo. Non so di cosa state parlando. Però diciamo quindi... come Kojima ha imparato da Metal Gear Solid 5, la Remedy ha un po' imparato da Quantum Break per fare Control. Sempre sì. Per continuare la metafora. Sono due giochi entrambi visivamente impressionanti. Control è un altro passo, ovviamente. Vabbè. Con Ray Tracing, eccetera. E... secondo me anche Quantum Break è divertente da giocare, controllo di più. C'è proprio un'evoluzione in tutto, secondo me. Tranne forse appunto la narrativa. Hati. Vittu Perkele. Ti ho fatto bannare tu in Finlandia, mi spiace. Oh no. Oh no. Satana. Mi dissocio. Perfetto. Niente, abbiamo... Edo, come il nostro solito, abbiamo detto tutte le cagate che ci sono venute in mente. Ma avete fatto più che bene. Io purtroppo non sono mai stato, diciamo, un gran appassionato di Kojima, ma non per... cioè, non lo so, è stato un caso fondamentalmente, perché non ho mai... Ora sì, sarò linciato da tutti, ma non ho mai giocato un Metal Gear, quindi... No. In generale non posso dire di essere... Dico una vecchia saga al di fuori di Kojima, eccetera. Splinter Cell, perché chi vuole triggerare stasera? Cioè... Hai beccato uno dei fan più grossi. Arriva Splinter così Cell. Alla fine in contropiede con queste. Io vi dico questo: Splinter Cell è uno dei motivi per cui lavoro alla Ubisoft. Cioè, non sto scherzando, non sto esagerando. Cioè, io speravo che fosse il progetto. Cioè, volevi. Speravo che ci stessero lavorando loro a Milano e che mi ci mettessero a me. No, infatti l'ho detto anche ai miei colleghi, al mio collega, cioè quando hanno annunciato... ogni volta che vedo le tre lucine verdi, e poi non è Splinter Cell, ma è Sam Fisher diventato un peluche, io muoio. Si può dire a cosa stai lavorando o... Non si può. Sto lavorando a Splinter Cell, però con i Rabbids. Ok, si può dire. E si scopre che c'è la nuova skin Super Saiyan. No, non l'avete sentito qui, sto dicendo cagate. Non è no, io sto lavorando a Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, in uscita nel 2022 per Switch. Nintendo Mettetelo Switch. Nella wishlist. Nella wishlist. Rips and Fisher. Non so se ci sono delle wishlist dove si possono mettere i giochi in tempo. Wow, è stato... Sarò sincero, non pensavo avremmo avuto così tanto da dire per quanto la maggior parte cavolate su questo argomento. Non mi aspettavo sarebbe venuta così lunga la puntata, ma ci sta, mi spiace. Xbox, ma la Ubisoft non lo sa. Boh, Edo, questo figo, è figo, il tuo... Bravo. Aggiornaci sul tuo gioco, figo. Assolutamente. Siamo curiosi. Ah, volevo fare anche un piccolo shout-out a Marco, che ha pubblicato il suo videogioco anche. No, io... più o meno. Vabbè, chiami... sì. Beh, dici come si chiama, dai, facci una brevissima introduzione al tuo gioco. Guarda, preferisco definirlo un minigioco, perché alla fine quello è nato da un'idea... da una piccola, come dire, tentativo di partecipazione al Ludum Dare dell'anno scorso. Si chiama Pupoteosis, lo trovate su itch.io. E che dire, è come dicevo un minigioco che vi farà venire l'artrite alle mani, una piccola storiella buffa e divertente. E che, come dire, per cui ci ho speso un po' di tempo, e se riesce a far divertire qualcuno sono già più che contento. Dai, poi prima o poi lo farò vedere anche in stream, divertiremo. sì, esatto, prima o poi lo farò vedere. Devo pagarti per farlo in stream? Chiaramente. Le tariffe. Chiaramente. Poi mandami la fattura. Assolutamente sì. Bene ragazzi, direi che bene o male abbiamo più che esaurito gli argomenti di oggi, direi. Voi cosa ne pensate? Volete fare un'ultima catchphrase così alla fine per salutarci? Wapalapadabda. Ok, ci sta. Beh, io tendo sempre a salutare con il nostro saluto del podcast, quindi ecco, diamo una chiusura al podcast che stiamo registrando in contemporanea. Io, come al solito, io ero Marco. Io sono ancora Jacopo. Io sono Edoardo. Detto ci doveva essere la partecipazione dell'ospite ospitante, e come sempre continuate a giocare.